I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Il doppiaggio italiano è un passo importante per la completa localizzazione di un videogame. Ma come funziona? Chi ci lavora? E soprattutto, come? Carlo Burigana ci introduce nel complesso e inesplorato mondo del doppiaggio videoludico per scoprirne pregi, difetti e possibili evoluzioni. Prossimamente, solo su Dietrologia Videoludica. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi ascoltatori di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo nuovo episodio 207. Provaci ancora Dave, che potrebbe insomma significare tutto e assolutamente significare niente, come è molto probabile. Però questa puntata in realtà un tema ce l'ha e adesso lo andiamo a sviscerare. Ma prima di tutto ovviamente presentiamo i co-conduttori di questa puntata. Siamo veramente tanti e numerosi, tanto perché ce l'avamo ripromessi Massimo 3, mi raccomando, Massimo 3. E ci abbiamo dall'altra parte del cappio Giuseppe Sasuo. Ciao a tutti. Buongiorno Giuseppe, tutto a posto? Sì, abbastanza. Sei carico, tu sei l'autore della puntata. Colpa o merito tuo. Scusa, non ti ho presentato. Esatto. Presentato. Allora a questo punto mi tocca presentarti. C'è anche Marco Gualdi, il distruggitore. Che sono venuto qui a parlare male di Dave. Sei venuto a parlare male. Male. Okay. Come quasi tutti del resto, no? Pensate che questa è la puntata di Dietrologia dove siamo tutti di Roma, ma in realtà ognuno sta per cazzi suoi. E quindi dall'altra parte abbiamo anche Simone, cognome Andreozzi. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Simone, scusate, è la diretta che a me mi frega sempre. Ti agita anche un po'. In realtà il podcast è atemporale, come si dice. Ma non ci sono abituato, lo sai. Perfetto. Simone si è invitato da solo. Ha detto voglio partecipare anch'io. E giustamente. Io? Sì, tu sei l'auto di. Io mi hai anche mandato minacce di morte. Non c'è niente di male, Non hai anche mandato minacce di morte a IPN. Cioè io avrei dormito un proiettile. Una testa di cavallo in una busta di carta. Lui ha detto, però, dato David Cage, vorrei partecipare pure io. Vedi, pensa che dico cose non mi ricordo. So come un altro che smentiva subito dopo aver detto le cose. Si chiama bipolarismo. Comunque, e l'ultimo partecipante, che anche lui, insomma, è tutto baldanzoso, ha detto io ne so a pacchi, Carlo Burigana. Salve a tutti, buonasera, è sempre un piacere ritornare sempre qui su questi schermi che non sono schermi, insomma, cioè, tra l'altro, schermi sui nostri dei computer, però, esatto. Che poi è la prima puntata che fai con me. È la prima puntata che faccio con Simone Pizzi, infatti tremi dall'emozione. Non nascondo una certa emozione, esatto, un'emozione genuina proprio. Ma sai, la tua voce mi calamita sempre molto, quindi anche a me, infatti, io mi ascolto sempre in continuazione. Ok, allora diamo i riferimenti della nostra trasmissione. www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito di riferimento, anzi andate a cercare anche scrivendo Dietrologia Videoludica su YouTube, il nostro prolificissimo canale video. Stiamo tirando fuori video a pacchi e poi oltretutto Simone ricorda che appunto con questa puntata inauguriamo su YouTube, sul nostro canale YouTube, il mese di Cage, il mese di Cage, esatto. No, sarà, è uno specialone diviso ovviamente inevitabilmente in tre parti, dove faremo insomma analogamente a questa puntata, anche lì faremo insomma il nostro dovere verso David Cage, perché insomma riteniamo giusto comunque approfondire ed analizzare questo fenomeno che insomma, senza, lo specifichiamo subito, senza entrare nel discorso se i giochi sono videogiochi o no, le opere di Cage, perché non ce ne frega niente. Se poi ci commentate dicendo ah però i giochi di Cage non sono videogiochi, non avete capito il senso di questa puntata, perché comunque noi non è su questo che ci vogliamo basare, che non ci quello faremo un'altra, diciamo, puntata che linea di massima parte, per farci volere bene, diciamo, io non capite un cazzo, ma poi non capito, anche chiaramente non capite un cazzo. Comunque un cazzo, tornando ai nostri contatti, dietrologia videoludica @gmail è la nostra mail, ovviamente è la nostra mail. Su Facebook e Google Plus ci cercate cercando dietrologia videoludica, e c'è anche il Twitter che è @dietrologiavideoludo. Video ludo. C'è scritto video ludo. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della trasmissione. Bene, come avrete notato, chiaramente non c'è Stefano il Biggio, perché sta giocando con le pecore a vapore in Svizzera. Sta giocando a vapore. Sacrifice, secondo me, quindi riagganciandomi alla puntata precedente, quindi chi vuole intendere. Dice che sta lavorando, Sta lavorando ai prototipi di pecore a vapore che sembra che vadano molto. La steamship, esatto. Okay. È fantastico, e questo è un trademark. Ovviamente c'è l'introduzione, che è la classica introduzione alla quale poi Biggio si sottopone sempre, perché c'è, cioè, il rito di imparare all'italiano, yes. All'italiano, anzi, e abbiamo detto chi è che lo legge? Lo deve leggere la matricola. Esatto, è l'ultimo arrivato. È l'ultimo arrivato, gli tocca. Questo è solo come quando tocca a scuola, capito? Quelli del quarto anno prendono quelli del primo, gli vanno a fracicare, no? Dentro al bagno, no? Quelle cose. Esatto. Che... Sì, e sì, per l'occasione poi abbiamo fatto scrivere un poema a Saso. Che si è proprio dice, guarda, falla lunga, a differenza di quando lo scrivete, sicuramente c'ha un senso, ma quello a parte c'ha un minimo di coerenza, insomma. Quindi parte lo stacco di imparare all'italiano e poi vai Carlo. Mazza, è lunga sta roba, oh. Già, non è che mica stavamo a scherzare, no, prima, no. Allora, io ci provo, però insomma, tanto benissimo, voglio voi, tranquillo. Non posso competere minimamente con Stefano, cioè ormai lui è proprio il, come dire, il gran can proprio della lettura iniziale, per cui, vabbè, no, adesso parlare male di quelli che non ci sono non è bello, dire che il Biggio è un gran cane, insomma. Povero, non è vero. La vera natura di un personaggio viene rilevata nelle scelte compiute da un essere umano sotto pressione. Più grande è quest'ultima, più autentica è la scelta che mostra la natura essenziale del personaggio. Così ha detto Robert McKee, noto scrittore contemporaneo. La narrazione interattiva è sempre stata un dramma, un impasse. Una storia si fonda, come già detto, sull'evoluzione dei personaggi a seconda delle loro scelte. E per far ciò, le loro vite sono messe letteralmente sottosopra, lasciando spazio al cambiamento, in meglio o in peggio. Per molti scrittori e sceneggiatori la struttura narrativa e i personaggi rappresentano le due facce della stessa medaglia, inversamente proporzionali l'uno agli altri. Per la maggior parte di noi invece questi due elementi sono inseparabili. Dai Laserdisc sino alle produzioni odierne di Quantic Dream, il videogiocatore ha sempre intrapreso decisioni in grado di modificare potenzialmente l'esito di una storia, o perlomeno ne ha avuto l'illusione. Che si tratti di bivi narrativi sulla falsariga di libro game, dialoghi a scelta multipla, quick time event e finali alternativi, non si è mai smesso di sperimentare. E noi in questo episodio di Dietrologia Videoludica analizzeremo questi approcci basandoci proprio sul principio che esiste in un videogioco progredito, narrativo, emotivo, ma completamente interattivo. Un videogioco che vada oltre l'uccisione di alieni o zombie mentre si attraversano i corridoi. Un videogioco in grado di affrontare qualunque tematica. Un videogioco adulto, disinibito. Un videogioco che provochi commozione, che colpisca il giocatore al pari dei migliori libri e film. Un videogioco che gli lasci un segno e possa farlo cambiare un poco. Parola di David Cage. Amen. Buon ascolto. Bravo, bravo, bravissimo. Tutto d'un fiato. Sì, sì, sentito tutto d'un fiato. Allora, stiamo barando, diciamo che stiamo barando, no? Siamo onesti? Un po' siamo onesti. Allora, dobbiamo dare i voti. Io il primo voto lo do a Peppe. Ah, ok. Il primo voto lo do a Peppe perché è comunque un bel testo di introduzione, quindi un bel set, sì. Secondo me, spaccato. Ottimo, anche tranquillo. Perché c'è un grosso coefficiente di difficoltà insomma, è vero, quindi... soprattutto sulla parola progredito. Progredire è veramente... progredito, vabbè. Esatto, e poi a Carlo che è andato benissimo, è stato tutto defilata, è stato un debutto eccezionale, però gli do 5. Sì, perché lui fa dei pesci di biggio, per esatto, cui... deve prendere per forza. E vai Giuseppe. Ok, allora no, vai Giuseppe, vabbè, io come voto ovviamente non do voto a me stesso, per cui questo lo tralascio, però mi è piaciuto quello che ho scritto. E poi dai, per l'impegno, e considerando che era la primissima volta di Carlo nell'imparare l'italiano, comunque gli do un 6, dai. Grazie. Dai, ci si può stare, dai. In effetti è di incoraggiamento. Marco? Ah sì, io penso che... insomma, Carlo è stato bravo, ha schivato anche le trappole, insomma, qualcuno c'è cascata dentro, esatto. Però insomma alla fine si è, perché lui deve entrare nella, diciamo, nella, come si dice, nella lotta pure lui, ma il Biggio lo sa che ci stanno le trappole, le virgole spostate o che ti cambiano il colore in giallo, che lo fanno diventare giallo mentre leggi, quindi, no, insomma no, dai, è già più preparato. Carlo invece, se giustamente l'inesperienza l'ha portato un po' fuori strada, però insomma vedrai che la prossima volta lo sapevi che c'è del male in questa trasmissione. La prossima volta verrà costa ancora una cosa quindi... stampata, ma io penso che gli do un 6, una sufficienza. Un 6, dai, vabbè, sufficienza. Sì, già anch'io do 6, dai, lo cambio il mio 5 perché effettivamente sono stato un po' stronzo. Simone? 7 con lode. Aspetta, a me oppure a Carlo? Infatti, poi affrontare, diciamo. Scusa, Marco, tu mi siete cascati comunque. No, scusa, c'è cioè, un momento, abbiamo fatto un po' di casino, siamo un po'... è una risata finita. Oh! Accavallati. Che dici? No, dicevo il 7 a me oppure a Carlo? A me per la scrittura oppure a Carlo per la lettura? Simo? No, la lode era perché gli hanno fatto l'handicap Pizzi e Marco, che cambiano i colori. Per lo scritto, non so, do 10. Peppone. Troppo buono, troppo buono. Io l'ho detto. Ho un debole per... Mi sono approcciato con la massima umiltà, proprio. Non posso competere, purtroppo. Cioè. Io rispetto le maestranze, rispetto, insomma. Ma so che la prossima volta verrai proprio col testo stampato. No, la prossima volta col cazzo che lo legge. Se me lo chiedete, forse avrò da fare, chissà. Avrò mal di gola, forse. Vabbè, ma purtroppo sono dei passaggi che qui PN. Dei riti di iniziazione. Esatto. Ogni tanto succedano queste cose. E sarebbe la variante del cyberbullismo, che è il cyber nonnismo. Esatto. Va bene, comunque, grande Carlo. Tra l'altro. Vabbè, poi dopo i saluti finali, ricordiamo una cosa al volo, anche se poi ovviamente leggeremo anche qualche commento o un commento, adesso non ricordo, relativamente alla puntata precedente, che comunque io anche personalmente, visto anche il feedback su internet, che comunque è stata una bella puntata, quindi questo mi fa veramente molto piacere, il fatto che anche ben gestita, molto ordinata, molto pulita, e quindi faccio i complimenti soprattutto a Carlo. Troppo pulita, sì, è vero, però faccio i complimenti a Carlo, perché come debutto diciamo che è stato un grande debutto, insomma, quindi questo mi fa piacere. Carlo, benvenuto, dato che non ho avuto l'occasione di farti il benvenuto di persona perché non c'ero, ero morto nel frattempo. Poi tornano, a volte tornano, sì. Ma io ringrazio profondamente, sono lusingatissimo di questa cosa, insomma. Veramente non ho parole, grazie. Bene. C'è la commozione? La commozione cerebrale, sì. Esatto. Vai Giuseppe. Allora, cominciamo subito questa discussione con una domanda così a freddo, rompendo subito il ghiaccio. Secondo voi, quale tra i videogiochi realizzati da Quantic Dream, che ricordiamo essere 3 o 4 a seconda che considerate, diciamo, il primissimo, quindi Omicron, Nomad Soul, Fahrenheit slash Indigo Prophecy, Ivy Rain e Beyond Due Anime. Tra questi quattro, qual è il vostro preferito? Perché? E ovviamente nel caso in cui nessuno tra queste produzioni vi ha soddisfatto, quali sono le motivazioni adducibili? Chi vuole cominciare per io, primo? Io posso iniziare io? Sì, sì, vai. Allora, è un po' difficile, perché il mio preferito è quello che è stato considerato, secondo me, il peggiore di tutti. Perché Fahrenheit. Perché Fahrenheit è stata la grande promessa, e fino a un certo punto, secondo me, c'era anche riuscito. Perché era il gioco che prometteva tensione, agitazione, suspense, narrazione e questo appeal estremamente cinematografico. E secondo me nelle prime 5-6 ore del gioco c'è tutto, cioè nel senso che chi ricorda la demo in particolare, la demo si basava sulla primissima scena di gioco ed in effetti era, secondo me, è la scena in assoluto più riuscita. Che ricordiamo, lo possiamo anche dire, è quella dell'omicidio nella tavola calda. Ah, tra l'altro è quello che dovrebbe tornare a fare Cage. Esatto. Perché io sono dello stesso parere, cioè, omicidio in tavole calde. Esattamente. Un attimo di ordine, diciamo così. Allora, facciamo, perché io sono d'accordo con Simone, perché facciamo un'altra specifica giusto per gli ascoltatori. Sì. Questa puntata sarà piena di spoiler, come succede spesso in dietrologia videoludica, anche perché senza i quali non si potrebbe comunque analizzare molti degli aspetti delle cose che vogliamo comunque analizzare. Tornando a questo, torniamo a Fahrenheit. E Fahrenheit era l'intuizione che ci ha avuto Cage, e secondo me era quello che lui voleva fare, poi fondamentalmente. Perché vi consiglio di andarlo a rivedere, perché descriverlo è anche un po' complicato, perché ci sono tante delle meccaniche, anche se in maniera primitiva, delle meccaniche che abbiamo visto successivamente negli altri giochi. Però era proprio la movenza, la gestualità, l'azione in sé, normale, cioè nel senso non paranormale o fantascientifica, che era costruita benissimo, perché comunque l'introduzione del gioco è questa persona che viene compie un omicidio, un efferato omicidio, anche estremamente truculo, inconsapevolmente, per ragioni che poi scopriremo più avanti nel gioco, o scopriremo poi neanche più di tanto, e si trova praticamente ad avere poco tempo per sistemare la cosa prima di essere scoperto, e quindi ovviamente incolpato e quindi incarcerato. E si tratta di pulire tutto, spostare il cadavere, nascondere l'arma del delitto, pulirsi soprattutto, anche se forse quella è la cosa meno realistica, diciamo, dal punto di vista della scena, e cercare, decidere anche dove scappare, decidere se scappare da una parte piuttosto che da un'altra, e anche dopo che sei uscito da un'altra parte, comunque decidere che cosa voler fare, praticamente se andare verso la metropolitana a prendere un taxi o roba del genere, e a secondo di quello che tu fai all'interno di quell'azione lì, potrai insospettire o no il poliziotto, il quale, che ovviamente comunque entro in X tempo, scoprirà la questione. Perché per esempio, se tu decidi di ripassare per la tavola calda e ti dimentichi di prendere il conto e di andare a pagare, il poliziotto si stranisce, ti ferma e lì so dolore. No, anche la commessa ti riconosce poi in seguito successivamente, nell'identikit. Poteva essere oggi un gioco indie solo la scena della tavola calda. Io ancora, quando è iniziato, ancora ho detto no, cioè mi è esplosa la testa quando è iniziato così Fahrenheit. Cioè, non riuscivo proprio a... ancora mi colpisce, insomma. Concludo dicendo il perché, comunque, in senso assoluto è il mio preferito, pur non essendo il migliore, perché comunque Fahrenheit per un po' ha realizzato un sogno di una vita, che era quello appunto di avere veramente un gioco dall'impronta profondamente narrativa e cinematografica, che era quello che io aspettavo dall'evoluzione delle avventure grafiche, fondamentalmente. E per un po', secondo me, questo appeal, quell'emozione, quella sensazione che ci ho avuto giocando quel gioco, che oggi riguardandolo lo vedo che è comunque estremamente primitivo, non l'ho provata poi con gli altri giochi, pur essendo stato felice comunque di averli giocati. Era una novità. Era una novità, ma una novità giusta. Poi dopo si caga in mano il gioco, vabbè. Cognome, tu stavi dicendo prima anche quando allora, io sono l'intervento. Io sono dello stesso avviso, nel senso che per me Fahrenheit è il più bello, cioè il più, non so se è il più bello di quelli che ha fatto, perché poi ognuno c'ha il suo, però è quello che mi ha colpito in testa, forte e chiaro. Dimmi. Era comunque, diciamo, premettendo sempre, è sempre per voi ovviamente, quindi, perché diciamo è una cosa puramente soggettiva. Certo, certo. Appunto dico, per l'esperienza che mi ha dato è stato quello che proprio avevo voglia di giocare. Infatti mi sembra che è uno dei pochi giochi che ho finito veloce, cioè ci sono stato non so quante ore a giocare, era un periodo dove c'avevo ancora i capelli, figurati. Voglia. Insomma, comunque c'avevo tempo per giocarci e mi ricordo che ne piacque tantissimo, per cui sicuramente fare Night e poi perché parte così. Infatti io poi un po' ho rosicato che non fosse proprio identico, perché la potenza di quella scena non, anche per quanto il gameplay poi viene riproposto così, sì, c'è anche la scena nell'appartamento, se ti ricordi ce ne stanno un altro paio mi sembra di scene così, però veniva, cioè l'inizio è veramente troppo cioè veramente troppo bello, anche perché io poi ero appassionato di laser game già, per quanto l'avessi visti di sfuggita per l'età e per la ripetibilità. Però proprio la cosa mi piaceva, poi il sistema la Simon & Simon che c'era con i colori, mia, oddio il minigioco di Simon, proprio quella era una cosa che vabbè è tutto, io odio però poi ne parlerò dopo ed era la cosa quello. Poi c'è la scena nell'ufficio che lui c'ha le visioni, cioè ci sono 3-4 cose che io me le porto, cosa che non per Irene Beyond è di meno, molto di meno. Vi cedo la parola. Senza allora, considerare che stiamo parlando della prima scena di sesso videoludica nella storia. È vero, sì. Marco, per tu di che parere sei? Per te qual è il mio diciamo, hai preferito? Diciamo, preferiti nessuno. Vabbè, no, comunque. Diciamo che allora Beyond mi sta piacendo parecchio, ma perché ancora non ho finito, perché so che tanto più avanti mi farà cagare pure questo. Fahrenheit probabilmente la scena iniziale, che è quella che è rimasta impressa a tutti quanti, è sicuramente quella che mi ha colpito di più in tutti e tre i giochi. Heavy Rain mi ha fatto talmente bestemmiare proprio cioè, che non voglio ricordarlo, cioè, perché se me lo ricordo comincio a farmi le domande e non posso dire che dei tre è il più dimenticabile, però sì, probabilmente cioè sì. In generale proprio perché è proprio un gioco pesante, non c'ha grossi picchi comunque. Sì, tu lo puoi dire, poi diciamo io ti controbatterò alla fine. No, sì, certo, poi è chiaro. Anch'io non sono, no, anche a me non trovi d'accordo su questa cosa. Anche se allora vai tu, Carlo. Cioè, tutta la parte dopo, quelle delle intelligenze. No, parecchia roba l'ho dimenticata pure io, la bambina indigo. Diciamo che esatto, che circa da metà gioco in poi diventa abbastanza dimenticabile per via, insomma, di tutta questa tangente verso il paranormale che, insomma, prende. Sì, infatti. Ma non lo è. Carlo, tu stavi dicendo? Ma io per quanto ho adorato, non lo nascondo, Fahrenheit, perché comunque quantomeno era un gioco molto vario, cioè aveva questo fondamentalmente, credo che gli altri due giochi, gli altri due titoli di Cage non propongono, cioè una varietà proprio di gameplay, anche proprio di situazioni differenti. Io per esempio ricordo perfettamente per dire, che ti posso dire, la partita di basket oppure l'allenamento di oddio. Carla e Tyrell, mi pare si chiamasse, oddio, sì, Tyrell, fanno sì. quella specie di sparring di kickboxing box, sì. Esatto. Per poi ovviamente intervallarle a queste scene di col conto alla rovescia, diciamo, in cui bisognava occultare cadaveri, bisognava sistemare la casa perché c'era la polizia, la porta, tutte queste cose qua, che era veramente al cardiopalma. Però c'era una varietà pazzesca. Però per quanto vi dirò, insomma, lo ricordo con gioia tutta questa cosa qui. A livello personale io sono più vicino a Heavy Rain. Heavy Rain è un gioco che per quanto poi abbia, probabilmente lo approfondiremo anche durante la puntata, dei buchi di trama, dei buchi di sceneggiatura quasi dilettantistici, proprio da quasi da ragazzini proprio di scuola proprio, che si affacciano alla sceneggiatura per le prime volte. E sotto acido, però. Nonostante quindi. Questo, comunque, il dramma familiare, vedere questo padre disperato, pronto a veramente qualunque cosa per salvare l'unico figlio che gli rimane, cioè diventa perché l'altro la sua lo ha fatto morire. Cioè. E avendo anche questi quattro personaggi, queste quattro storie collegate a loro volta, a loro malgrado, insomma, tra loro, era interessante comunque. Poi questa atmosfera noir, questi ambienti pazzeschi, che ne so, il negozietto di Assam oppure quel negozio degli orologi, cioè quelle secondo me sono proprio scorci che io fatico a dimenticare, onestamente. E anche in Beyond, che comunque è il gioco ovviamente tecnicamente, artisticamente più bello, sicuramente più curato, anche perché ovviamente è più recente, però neanche quello è riuscito comunque secondo me a bastare per renderlo altrettanto interessante. Però Beyond possiamo dire in maniera, poi dopo ne parliamo chiaramente, che no, non possiamo, che dire. Comunque è veramente la sintesi evolutiva di tutto quello che in qualche maniera hanno imparato, perché anche per quanto come gli altri giochi in qualche maniera si caga un po' in mano, lo fa in maniera un po' più lineare, cioè nel senso che tutto quello che c'è e che ti fa storcere la bocca, comunque alla fine dici bah, alla fine ci potrebbe pure, cioè nel senso non dici che è proprio una cosa, certo, alla terza botte cioè, ma sti cazzi, no, no, perché no, non è vero, perché su Fahrenheit il problema è che a un certo punto all'interno della trama verso la fine inseriscono elementi ad cazzum che non c'entrano niente, qui gli elementi ci stanno già, che poi ti possano non piacere come tipologia è un tipo di discorso, e secondo me poi Beyond è comunque, cioè nel senso è il capolavoro da quel punto di vista, perché comunque tutto è morbido, tutto è cinema, tutto è movimento di camera, tutto è, da quel punto di vista, cioè è sicuramente l'opera, però Fahrenheit, sai cosa, vai, secondo me mi interrompo solo un attimo, hai sentito che pausa di manco l'attore, però Fahrenheit Io, manca solo un attimo, solo perché io credo che la pecca di Fahrenheit, di Beyond non è tanto quella del, appunto, del non aspettarsi determinati elementi, il paranormale, cioè lì si parte proprio da un setting di quel tipo, per cui non ci si può scappare, insomma. Fahrenheit invece è un gioco che non ci stanno le tette di Ellen Page, ma non ce l'ha proprio, neanche in Beyond ci stanno proprio su di lei. Però secondo me lì pecca proprio su, per esempio, ecco, la storia d'amore fra lei e Ryan. Cioè io alla fine, io mi ricordo benissimo di essere arrivato al punto tale in cui c'è poi il bacio, le cose, è sbocciato sto amore, quando invece questo ragazzo entra nella sua vita come un antagonista, fondamentalmente, no? Secondo allora, me se la sono considerata, però lei male. Era disperata, eh? Cioè tu devi sempre considerare il fatto che lei è una ragazza sola e disperata, fondamentalmente. No, però mi sa che ci viene passare avanti, però secondo me c'è la storia d'amore, l'elemento storia d'amore l'hanno giocato in modo pessimo, ed è una cosa che mi dispiace, perché tutto il resto funziona perfettamente proprio. Beh, ma i finali ce lo dimostrano, eh. Tu c'è un'opzione nei scrivere. Finali, infatti, sul discorso della storia d'amore, che veramente alla fine ci hanno messo per mettercelo, cioè proprio da serie. Cioè ricorda molto Mass Effect, quelle cose messe un po' così. No, però rimaniamo nell'orto, Giuseppe. Allora, io invece a questo punto, visto che chiudo io con la mia, insomma, con le mie opinioni, ho tutto, ricordiamo i video di gameplay che poi vedrete nelle nostre produzioni sul canale YouTube, sono stati giocati da me, che prima di fare ovviamente sta puntata me li sono rigiocati tutti e tre, quindi insomma ce li ho abbastanza freschi. Io personalmente, anche dopo appunto averli rigiocati tutti e tre, per me resta tuttora il mio preferito, proprio come ha detto anche Carlo, Heavy Rain. Innanzitutto perché, vi dico innanzitutto perché non ho ritrovato le stesse sensazioni né in Fahrenheit e neanche in Beyond. Fahrenheit perché lo vedo anche, sì, ha innovato, questo indubbiamente, però lo vedo come un esperimento ancora acerbo. C'è, diciamo, molta parte di gameplay da videogioco, tra virgolette, perché se vi ricordate c'era pure il discorso che c'erano sempre i vari game over a ogni azione che fallivi, non era tipo Heavy Rain che comunque se sbagliavi certe cose ti poteva cambiare la scena. Poi se c'era pure il discorso delle vite, se vi ricordate, potevate, diciamo, prendere alcune vite in alcuni punti che erano nascosti. C'erano per giunta c'erano ancora i collezionabili, che praticamente erano delle carte che trovavi, che prendendole ottenevi dei punti per sbloccare degli extra, che tra parentesi questa caratteristica è ritornata pure in Beyond, che ci sono tipo delle tracce ectoplasmatiche, sì, che devi trovare con Aiden. E poi ovviamente odiavo anche la parte dei quick time events e di alcune forzature di minigiochi. Cioè, per esempio, ho sempre odiato di Fahrenheit, e per me è stato un incubo rigiocarlo, le famose due scene stealth, che insomma, quella è la base militare, quando siete ragazzini con Marcus e Lucas, se vi ricordate, che si devono infiltrare nel capanno. E fortunatamente devo dire che quantomeno Cage si è riscattato per certi versi poi con In Beyond, dove invece quelle scene tra virgolette pseudo stealth comunque funzionano discretamente, decisamente meglio comunque di Fahrenheit. Purtroppo ovviamente Fahrenheit, se dobbiamo anche vederlo dal punto di vista narrativo, comincia appunto, come avete detto voi, in maniera abbastanza interessante, però poi da metà gioco circa va proprio in vacca, perché comincia a introdurre tanti elementi. Innanzitutto si perde il mistero già da metà gioco, perché da metà gioco sai che chi è, diciamo, colui che ti ha costretto a compiere quei delitti, che è quella specie di sciamano Maya del clan Okra. Mentre ovviamente in Ivy Rain tu, diciamo, fino a poco fine del gioco, e in realtà di rimando anche in Beyond, cioè il plot twist è proprio verso un paio di capitoli dalla fine, non è tipo a metà gioco che tu già più o meno sai tutto. Sì, però diciamo in Fahrenheit tu sai quello. Nel momento in cui incontri faccia a faccia ai primi scontri con sto tizio Maya, cominciano anche le cose troppo fantasiose di Cage, tipo i combattimenti alla Matrix. Vabbè, sì, poi diventa Matrix, cioè non è che... Esatto, Matrix unita a Dragon Ball. E poi per giunta ci inserisce pure, se vi ricordate, che combatti oltre con sto tizio anche con quello del clan Porpora, che era praticamente l'internet, cioè le intelligenze artificiali. Sotto le mentite spoglie di quella specie di vecchia cieca, se vi ricordate, che insomma erano anche quelli che causavano la glaciazione, che stava insomma creando problemi a tutto il mondo. No, quando sono uscite fuori l'intelligenza artificiale io mi sono alzato in piedi e ho battuto le mani, perché io ho detto chi avrebbe potuto fare una stronzata del genere, cioè, di ridosso. Invece Beyond non mi ha preso esattamente come Ivy Rain, perché non mi sono nella gran parte delle scene del gioco non mi sono sentito emotivamente attaccato e anche intrigato come giocatore, rispetto ovviamente all'avatar che muovevo, come mi è capitato invece in Ivy Rain. Forse perché magari con qualche avatar in particolare o con tutti? No, in generale, sia con Aiden che con Jody. Voi, perché comunque il gioco Beyond inizia, diciamo, con un flashback, che con pure la primissima scena dopo il flashback. Comunque sono delle scene in cui tu vedi sin dall'inizio che sta povera Krista, insomma, ha avuto una serie di avvenimenti comunque sempre tristi, una vita proprio di merda, diciamolo, no? È sempre andato male qualcosa, e comunque non noti, vuoi anche per quei salti temporali, un certo scopo, un certo obiettivo, dove esattamente va a parare il gioco. Perché tu in Fahrenheit sai che c'è questo che ammazza, diciamo, che ha fatto degli omicidi e vuole scoprire perché l'ha fatti. In Ivy Rain sai che c'è stato un rapimento seriale e vuoi sapere chi è il killer. Qua, diciamo, non è che sei così intrigata a sapere che cosa vuole, dove vuole andare a parlare Jody. Neanche Jody stessa lo sa fino a metà gioco, fondamentalmente. Ma questo non è necessario. Questo, diciamo, è ovviamente la mia. Sì, no, ma non è necessariamente un male, però, perché. No, dico, dal mio punto di vista. Infatti, no, ma secondo me, guarda, allora ritornavo a una cosa che secondo me con Simone probabilmente siamo anche un po' d'accordo, perché magari forse ne abbiamo anche già discusso. È che c'è un momento in cui Cage ci propone una storia d'autore e quindi fatta di intima forse per certi versi, e quella secondo me è la parte che funziona, ma c'è una parte schizofrenica che poi inserisce elementi. No, no, elementi. Ci sono infatti alcune parti intime che a me sono piaciute, per dirti, di Beyond io ho, in assoluto ho adorato due parti che proprio a me come personalmente sono piaciute, quello, tutta la parte di quando sei una barbona e tutta la parte di quando devi, diciamo, prepararti per l'appuntamento con Ryan, che diceva anche prima Carlo, se non sbaglio, quelle là, diciamo, che sono fondamentalmente delle scene così di vita vissuta, dove tu fondamentalmente è come se giocassi con, in un livello, in un'area sandbox con delle bambole, fondamentalmente funziona. Sì, però, cioè, quello che volevo dire io è che secondo me è proprio la diversa tipologia di storie che comunque vanno a troccare tre tipologie di corde diverse, e quindi è molto importante secondo me il tipo di percezione, di sensibilità che hai tu nei confronti di quello che è. Perché il primo gioco è un thriller fantastico e ci sono delle scene che comunque ti fanno venire magari i brividi o comunque ti fanno venire l'ansia e via dicendo. Sì, diciamo che metà gioco di metà Fahrenheit a me è piaciuto tanto proprio per il discorso che era un bel, diciamo, thriller con omicidi a sfondi rituali, esatto. E infatti a me interessava, e la stessa cosa mi è piaciuta e ancora di più in Heavy Rain, proprio perché c'era il discorso sempre del noir, del poliziesco che dovevi, insomma, capire chi era l'assassino, no? E questa cosa ovviamente, come hai detto tu giustamente, è mancata in Beyond, proprio perché io non ci vedo nessun mistero particolare. Poi oltretutto io devo ammettere qua in questa sede, come del resto sapranno, insomma, chi mi segue, che a me in generale la vena paranormale di Kate mi ha sempre dato fastidio, ed è il motivo per cui anche mi è piaciuto Heavy Rain, proprio perché Heavy Rain dei tre, escludendo ovviamente Omicron, è quello che c'ha meno caratteristiche paranormali, perché poi da questo non lo sappiamo mai, per come giochi tu, per il gioco che, diciamo, ti hanno rilasciato in, diciamo, alla fine ti hanno commercializzato, non per diciamo tutte le scene tagliate eccetera, la parte paranormale dopo il rapimento di Sean non è più presente, diciamo, non ci sono più quei sogni, quelle cose di Ethan che si ritrova in un'altra strada con in mano tutta la parte sovrannaturale, un origami, esatto, una merda. Infatti c'è detto, sempre quella scena di lui si sveglia e non è mai non lo sapremo mai, no? Sì, no sì, nel senso, però quella parte, come ti ho detto, è circa fino a un quarto del gioco. Da quel momento in poi non c'è più nessuna traccia paranormale in quel gioco, e secondo me ecco perché a me, ripeto, è piaciuto di più Heavy Rain rispetto agli altri, perché poi continua ad essere comunque un thriller senza particolari, insomma, voli pindarici. Sì, no, capito, ma il problema è che secondo me Fahrenheit è quello che ha tirato fuori l'anima più malata, voglio dire, The Cage. Heavy Rain era quello che voleva tirare fuori l'anima più malata e non c'è riuscito, e secondo me Beyond invece è quello che ha trattato proprio il tema che a me comunque personalmente è quello che a livello di sensibilità mi tocca di più, che è quello del è difficile un po' da spiegare, io userei il termine solitudine, ma in realtà non è forse la discriminazione, della diversità, sì, però per motivi superiori, cioè per motivi che è difficile far comprendere, no? Nel senso ecco, Simone sì, ha azzeccato probabilmente, anche se anche in questo caso forse non riesco a spiegare appieno, però è un principio, un qualcosa che rende ancora più da film d'autore Beyond fino a che non arriva al catalizzatore, chiaramente. Okay. Perché se si fosse limitato a raccontare il dramma di una ragazza che viveva una condizione e quindi un rapporto che comunque la vincolava e l'avrebbe vincolata per sempre, perché comunque lei non ne poteva uscire da sta situazione, e probabilmente ci avesse costruito una storia che era limitata al suo intimo, alla sua esistenza, probabilmente sarebbe stato un capolavoro. Però appunto Simone, tu convieni con me, appunto, come stai dicendo, portando l'esempio della scena del catalizzatore in poi, che poi là purtroppo è proprio questo, questa scala, escalation sì, sì, del paranormale che ha rovinato sempre, secondo me, o comunque che ha penalizzato, dai, un po' le sue produzioni, sì, infatti, appunto, che non permettendogli di essere definite dei capolavori, ecco. Arriva con la trama da qua, cioè, a un certo punto sbotta, cioè, come posso dire, esatto. Il palloncino quello gonfio piano piano. No, posso aggiungere una cosa che magari così facciamo a rotazione tutti, sì. Poi dopo riprendi tu. Sì, sì. L'altro giorno parlavo proprio con Marco e dicevo, secondo me lui, allora, secondo me, siccome che queste scene, quindi la parte americana della sua opera cinematografica, chiamiamola così, è talmente decontestualizzata e malfatta, che secondo me non è opera sua. Allora io quello che dico, ma può essere che lui ci mette talmente tanto tempo a fare le cose che arriva qualcuno e dice, senti, romper cazzo, metteci due UFO, metteci due schioppi, perché qua se no alla fine non vendemo sto gioco. Poi Marco mi ha risposto dicendo che secondo lui non è così, perché c'è una costanza, diciamo un riciclo, comunque in una ridondanza in questo comportamento di David Cage, che evidentemente comunque deve essere una cosa proprio sua, e ci sono due aspetti che io proprio non ho tollerato, al di là dell'intelligenza artificiale: il poliziotto in Heavy Rain, che potete dire quello che vi pare, ma è il personaggio più marcato, e ti stai riferendo ovviamente all'agente Jaden Norman dell'FBI, no, esatto. Dell'FBI, il poliziotto proprio. Ah, l'assassino, Scott Shelby. No, okay. Oh, ragazzi, il commissario di polizia, il poliziotto, quello che affianca quello che affianca, ok. Okay. Okay. Quello che picchia, bravo, esatto, anche quello che picchia lo psicologo per estorcergli le perfetto. Informazioni, no? Quello è un personaggio, cioè, talmente brutto. Talmente marcatamente brutto da essere dilettantistico anche quello, perché ok, vabbè, tu hai voluto fare il poliziotto cattivo, sì. Ma questo era, cioè, nel senso, una persona del genere non avrebbe mai lavorato in nessuna parte del mondo, neanche negli Stati Uniti, cioè, sì. Voglio dire, no, quello è lui, spariamogli. Ma perché? Allora personaggi caricaturali ce ne sono un po' dappertutto, anzi forse neanche pieno, perché per esempio c'è pure caricaturale apposta, il dottore, cioè. il dottore pazzo, quello che cerca di drogare a tutti, sì, i costi a Madison. C'è in Fahrenheit, se vi ricordate, a un certo punto Carla nel suo appartamento, mentre stava lavorando appunto sugli indizi per capire chi fosse l'assassino della tavola calda, viene tipo il gay, il vicino, sì, gay, che sì. È proprio la caricatura del classico, sì, gay, sì. Insomma, no, quello da telefilm quello New York parla, che esatto, che si atteggia con la voce, che poi giù li legge pure i tarocchi e si rivela anche fondamentale per le indagini. Comunque, insomma, è pieno di questi stereotipi, secondo me. Ragazzi, il problema è che c'è, perché poi non so come volevate avanzare nella puntata, però il problema è Cage stesso, o comunque la squadra di scrittori, penso che sia da solo. No, penso che non è da solo, ma secondo me il problema è proprio lui, cioè secondo me lui è proprio uno psicotico bipolare, cioè. Ma non so, a me sembra solo mediocre. Io ho pensato pure che scrivere. Il suo gruppo. No, aspetta, scusa. Sì. Mediocre non può. Allora, ragazzi, uno che ha creato l'introduzione dei Fahrenheit non è un mediocre, partiamo dal suo presupposto, cioè secondo me registicamente è un maestro, ma a livello di scrittura non ha fatto niente, cioè a livello di game design maestro, a livello di regia maestro, ma a livello di, se tu dovessi raccontare un film, sono d'accordo, però il problema di fondo è che l'introduzione di Fahrenheit non è solo registicamente, ma è anche nella meccanica e anche dal punto di vista narrativo, scritta da uno che sa quello che stava facendo. Dal punto di vista di game design, però, dal punto di vista narrativo, finisco. La fabula è: questo si sveglia con la roba. No, non è fabbro, l'intreccio. Si sveglia col sangue in mano, non sa che cos'è. Cerca di. Ci sono le mie cose. No. Esatto, cerca di capire se è diventato uomo o no. Quell'altro entra. In base a quello che succede, uno trova o non lo trova. Cioè, è molto semplice. Però, siccome è stato bravo lui o chi per lui a crearli intorno ad aggiungere l'elemento videogioco, diciamola così, diventa una roba epica. questa era il mio, la mia idea, perché a livello di scrittura c'è, cioè, un caffè entra, il signore entra in un caffè splash, no, però vabbè, io ribadisco, per me c'è un discorso di una parte autorale che è sensibile ed è europea, e c'è una parte action che è americana e che non fa parte, sì, della sua cultura, cioè, voglio dire. Io però non lo so sta cosa, perché io stavo dicendo, se c'è un gruppo, perché mettiamo che non sia da solo, il problema è sapere quanto lui influisce sul gruppo, capito, se comanda lui, cioè, come c'è gli un gruppo, cioè. Esatto, c'è un gruppo, ci sono delle persone, si fa una trama, alla fine viene fuori Fire Night, alla fine ti bestemmiano perché comunque c'è sta cosa, perché non penso che sia, diciamo, piaciuto alla questa grande maggioranza. Sony qualcosa gli avrà detto a questo prima, ma, o poi, no? Sì, ho capito, ma non penso che questo qui è andato dal suo gruppo, ha fatto questo gioco, che c'è stato tutto un pezzo di trama che fa schifo o che non è piaciuto, che proprio non è il massimo, e gli abbia detto vabbè ragazzi, facciamo un atto come se niente fosse. E il primo sì, potrebbe pure aver fatto così. In realtà comunque per fare Night, secondo... c'è il discorso che anche a livello, in un post mortem l'aveva detto Cage o comunque qualcuno di Quantic Dream, addirittura in teoria fare Night sarebbe stata dovuta essere una cosa tipo episodica in 12 parti, poi sempre per questioni di tempo, no, dicevo, perché comunque ha avuto una lunga gestazione, taglia, inserisci cose. Dicevo un'altra cosa, c'è sto team, sì, queste persone che te fanno, che ti aiutano a fare la storia, toppano la prima volta, toppano pure la seconda volta, la terza ti manda a fanculo. Ma il problema, quindi è che sei tu il problema, no, sei tu che in qualche modo lascia toppare, perché secondo me lì c'è un produttore che è contento di quello che lui fa, perché dice, certo, a me comunque vuoi o non vuoi mi fa vedere che la mia macchina è coatta, ok, perfetto, quindi a me mi sta bene comunque, perché il discorso, capito, è quello, se no l'avrebbero segato a questo, cioè, va mo, bene, so 10 anni che sta a fa sta roba, per questo ti sto dicendo che è lui che fa queste cose, perché se era il gruppo, segavano il gruppo, non segavano lui, quindi è lui che ci mette queste cose, è assolutamente lui, è assolutamente una cosa. Posso, io sì, sì, vai. Rispondo con una domanda e ve la faccio io a voi, se Giuseppe mi permette, visto che sì, siamo, sì, certo, a casa sua virtualmente parlando. E io intanto prima della domanda, Carlo, dico che guardando i dati di vendita ha fatto 2.072.000 Heavy Rain, non so quanto sono precisi. Sì, era quasi, non è male, quasi tre, che è la che è più della metà di Last of Us, e non dico altro. Last of Us a fine ciclo. Sì, devi anche calcolare, però questa è roba molto di nicchia, secondo me le persone non le recepiscono bene. Cioè, nel senso che ha venduto più di The Last of Us? No. Ha venduto più della metà di Last of Us. Ah, più della metà di Last of Us. Ma secondo me 4 anni di vista, prima. Dal punto di vista delle vendite, secondo me, cioè, loro ci sono sempre rientrati, quindi No, tocca vedere quanto è costato, però insomma, scusa. Beh, gli è costato meno di Beyond, sicuramente. Penso sì. Carlo, scusa. No, la domanda era questa. Probabilmente questo, diciamo, questa scrittura fallibile, va, diciamo, chiamiamola così, dei giochi di Cage, non potrebbe semplicemente dipendere dal fatto che comunque il gruppo di sviluppo in qualche modo di Quantic Dream si sofferma più sulla parte tecnica dei loro giochi, visto che comunque parliamo di tre giochi che quando sono usciti erano tutti e tre molto all'avanguardia a livello di tecnico, probabilmente anche tecnologico, insomma, sì, sì, mostravano cose che, diciamo, dei traguardi che finora erano comunque inesplorati sia a livello PC sia a livello console. Io Fire Night l'ho giocato su PC, io, ovviamente gli altri due su PlayStation 4, però io trovo più, ecco, un'attenzione certosina su quella che è la parte tecnica, un po', diciamo, non è una novità, è un po' la sindrome di Crysis, no, se vogliamo, anche loro fanno dei giochi che sono eccellenti dal punto di vista tecnico, purtroppo però falliscono miseramente su quelle che sono, su quella che è la trama, diciamo. Carlo, pure che Carlo, magari, dimmi. No, dico, c'è un perché, però c'è un perché, ed è proprio analogo al discorso di Crytek, perché mentre che Crytek fa i giochi per vendere comunque il motore grafico, cioè Quantic Dream, ricordiamoci che era una società che faceva motion capture e faceva motori grafici, quindi, sì, cioè, nel senso, fondamentalmente loro quello hanno sempre fatto, sì. Tant'è che non è un caso che Sony gli ha affidato la tech demo della PlayStation 4, perché comunque loro quello sanno fare, c'hanno degli studi di motion capture, costruiscono motori grafici, anzi mi ricordo che ai tempi di Heavy Rain, anzi no, i tempi tempi dei Villeneuve, ai tempi dei Fahrenheit, se tu andavi sul sito della Quantic Dream, loro ti presentavano il gioco, poi c'era una parte successiva che si chiamava Digital Cinema o qualcosa del genere, dove loro praticamente mettevano in vendita il loro motore digitale, il loro motore grafico, che era appositamente studiato per far quello. Che non ha preso nessuno. Questo non lo so, non ne ho idea. Però comunque, anche se loro non l'hanno venduto a livello di industria cinematografica, ma l'hanno venduto, che so, agli architetti super cazzuti per fare delle demo, o l'hanno venduto, ma comunque loro, lo scopo loro commercialmente non era quello cioè il videogioco inizialmente era una parte secondaria di Quantic Dream. Ora poi chiaramente con il rapporto con Sony il discorso è cambiato, però cioè vedi, quindi Cage, ma poi Cage bisogna, no, comunque chi fa la sceneggiatura, allora o è Cage oppure è un Chartrone, lui è il direttore dei progetti, okay. Ed è il suo più grande nemico è se stesso. E il problema è quello, perché poi sono prodotti, sono manufatti di rara bellezza per certi versi, partendo da Fahrenheit, che comunque ricordiamo, cioè la ragazza, che non mi ricordo, la orientale Fahrenheit, dava la pista a tante altre donne dei videogiochi di quel periodo. Stai dicendo Carla Valenti? Carla, sì. Cioè era bella a vedersi, cioè aveva proprio un carattere grafico. Che io già, sì, vabbè, però se la vedi, no, ho capito. Sì, ma ricordo pure io, sì. E voglio dire, te la guardavi come una bella ragazza. Non so se riesco a spiegare, Lara Croft, o comunque Tomb Raider di quel periodo non era un Tomb Raider, non aveva lo stesso carattere. No, lontani anni luce proprio, cioè. Assolutamente. Quindi, cioè, questo già è per dire un elemento che. Anche per essere stato il primo gioco di quel tipo, spiccava. Dopodiché, se in tutti e tre i giochi il filo conduttore è questo svacco che non si capisce, si capisce o non si capisce, perché poi che è successo? Dopo Fahrenheit, che hanno capito tutti qual era il punto debole di Fahrenheit, quando è passato in Sony, quelli di Sony hanno fatto perché io sapevo che è così, che è arrivato uno e ha fatto a canna con i draghi e i mostri, perché qua dobbiamo fare le cose in un'altra maniera, e lui ha fatto Heavy Rain. Dopodiché, da quello che, questo non lo so, però questo lo sapevo per quanto riguarda Heavy Rain poi non lo so, ma mi viene da pensare che lui ha detto fammi una cosa, paleso subito il fatto che c'è sta il paranormale, così non devo così giustificare, non mi rompono il cazzo, esatto. Cazzo, e io vado avanti, perché poi è da serie film alla Ghost Whisperer, la serie TV, sì. Alla Ghost Whisperer, alla Medium, tutta questa ondata di roba che arrivava negli ultimi anni. Anche il Sesto Senso, se per la gente morta. Aspetta, secondo me Fahrenheit, cioè no, Fahrenheit Beyond, no, gli dà una pista a Ghost Whisperer, cioè vuoi dire. Sì, vabbè. Però è quella, cioè, è quella paranormale. Vista, no, vabbè, no. però, no, io vorrei vedere. Vabbè, però c'è sempre lei, che è Jennifer Love Hewitt, che insomma sì. Regala delle pure se fanno mezz'ora di lei ferma. Vabbè. No, a questo becerume non c'è sto, io chiudo. Però dai, dipende, non sempre. Vabbè, allora no, allora scusate, allora no. Allora no, ma intanto finisci comunque. Sì, finisco nel senso. Esatto, poi fate. E voglio dire, questo paranormale da, non da quattro soldi, non horror, ma speranzoso in qualche cosa, non lo so, insomma, visto dal punto di vista positivo, non strumentalizzato e non propenso alla paura, allo spaventare, diciamo più intimo, ecco. Ma beh, intimo, sì, vabbè, insomma, queste svolte così, cioè lui ha detto io dico subito, questo è il fatto, questo è l'antefatto, questa va avanti con lo spirito, lo dico subito, mette mani avanti e vediamo come va. E sì, infatti da quel punto di vista era molto meno fastidio. Sì, però poi in realtà poi lo svacco c'è sempre, perché lui, diciamo, appunto, anche come vedi, come hai visto dal trailer o anche solo giocando la demo, no? Ricordate pure le scene della demo, penso. sembra che appunto lui ti crea l'illusione che tutto il gioco deve essere, come aveva detto giustamente anche Simone, Pizzi ovviamente, tutto basato su momenti della vita di Jody e del suo rapporto con Aiden, mentre invece poi lo svacco dalla famosa scena del condensatore in poi c'è ugualmente. In che senso? Poi lo stesso ti ha ingannato Cage, no? Qual è lo svacco? Scusa, tanto siamo con i spoiler già avvertiti. La partenza per il fatto che comunque il fino alla prima scena, fino a che non appare il condensatore, potrebbe che essere sarà poi l'elemento storia, diciamo una buona storia autorale dove si racconta il vero dramma della ragazza, che è quello di avere comunque la vita condizionata da un fenomeno che vuoi o non vuoi, può essere un fenomeno realistico, può essere un fenomeno paranormale, alla fine lì è comunque il senso che vuoi dare, sì, più che il contesto. Sì, il contesto ci può anche stare, cioè io la posso pure raccontare una storia paranormale se comunque rimane in determinati canoni, che può essere per esempio quella del sesto senso, ad esempio, dato che l'abbiamo citato, nel senso comunque non è che è un film dove ci stanno i mostri che fanno esplodere, però non è manco un film che dice ah che bello, vediamo lo spiritello che dà la mano, non è proprio così, no, appunto, cioè nel senso sì, ma comunque Beyond non è neanche Casper, dai. Cioè, ci sono momenti divertenti, però poi altri abbastanza drammatici. Il problema è che sì, non ci sono risposte da una cosa all'altra. Io penso drammatici, che dovremmo immedesimarci. No. Scusa, Simo, poi te faccio parlare. Perdonami. Dobbiamo immedesimarci nel fatto che provate a immaginare veramente l'assurdità, che per noi è assolutamente inconcepibile, il fatto di avere la consapevolezza di non essere mai soli in nessun momento, e ribadisco in nessun momento della nostra esistenza, che può essere lo sperare di avere un rapporto intimo con una persona, o stai cagando, o ti stai masturbando, stai studiando, stai facendo qualsiasi cosa. Poteva parlare anche con un gemello sei mesi, volendo, tutto sommato, che più o meno. Cioè? La storia di un gemello sei mesi, due gemelli sei mesi, poteva essere la stessa cosa. Poteva essere, no, beh, vabbè, probabilmente vabbè, un po' c'era più drammatico da far vedere. Questo è una cosa magari più blockbuster. Questo lo vedremo nel prossimo videogioco. Il problema si separano alla fine. È che ma comunque il discorso è quello, perché tanto lo possiamo dire tranquillamente che è uno spoiler, no? Sì. Lo spoileriamo, però facciamo lo spoiler. Vai. Abbiamo detto che comunque Beyond, cioè nel senso Aiden non è nient'altro che il fratello non nato, quindi sì, è un colpo diciamo di scena che chiunque abbia visto una serie di film appunto sul paranormale comunque se l'aspettava, sì, diciamo, oppure, la scelta più ovvia, no? Dovevi giustificarlo in qualche maniera, no? Esatto. Non so voi, ma anche nella realtà qualche amico, cugino, parente, qualcosa che ha vissuto qualcosa del genere, sì, esatto, ci stanno. Poi non andiamo a aprire quella porta, perché poi si va in altri campi. C'ho due amici che entrambi, cioè io sono amico di uno in particolare, e loro sono gemelli. Comunque loro lo testimoniano costantemente che c'è un'empatia estremamente potente magari fra di loro, che comunque se uno sa c'ha un problema o sta male magari a distanza, vedete, loro hanno magari la sensazione che c'è qualcosa che non va o altri tipi di fenomenologie. Poi uno ci può credere o no, però comunque questo è quello che sto dicendo io, anche cose molto più simili a proprio la trama del, non proprio così ovviamente, però insomma simili le ho sentite, visto però da pure là persone fidate, però andiamo a aprire cose, certo. Quello sarà un altro podcast, esatto. No, vabbè, però capisco quello che dice, hai ragione. Cioè. Però sì, però posso dire un'altra cosa, ma i tre quarti dei film che sono usciti, dei film semplicemente che sono usciti al cinema negli ultimi tre anni, ma sono uguali, cioè per quello che posso dire io tutti questi film dei fantasmi, io non ho visto lo spessore della carta velina di un film medio, di queste trame che non stanno né in cielo né in terra, lo stesso Batman. Però vabbè, non andiamo pure là. Però insomma ci sono. Vabbè, è vero pure che tu dici a me mi sta bene in cazzo, ma manca a te ti sta bene in cazzo. Cioè. No, io mi ricordo. No, fermati. No, me hanno benissimo. Però poi alla fine quando io vedo. Il problema è quando gli altri gli affibbiano determinati. Determinate proprietà, cioè Batman, Nolan, le pippe, gente si toccava a sette mani, e poi ci stanno due o tre cose proprio nella trama che non funzionano. Cioè, allora, come fossile epidermico, la gente che si tocca. È quello sì. Ma come ho sentito in altre parti, porto il verbo, non è che sono idea mia, anche se le condivido. Se tu vuoi rendere serio il cinefumetto, quindi Batman e Nolan l'ha fatto diventare una roba seria, tutto triste, che infatti poi ha influenzato Man of Steel e tutti quelli che verranno dopo, no? Lo devi fare perfettamente credibile. E invece ci stanno i personaggi che fanno le cose senza un perché, le fanno perché le devono fare. E ci stanno dei buchi di tranne. Ma tu parli del terzo? Nel terzo. Il terzo è riuscito maluccio, insomma. Esatto, e tutti, oh, bellissimo. Allora, che comunque nel contesto della trilogia è stato un buon lavoro. Cioè. Sì, ma poi cioè, non sai che con quello che spendono non è che puoi dire, ah, che cagata, cioè non lo puoi dire. Però sono state un sacco di cagate con quello che spendono, insomma. Beh, super sì, però hanno speso i soldi. Cioè, Man of Steel, per esempio, è un film riuscito a un quarto. Cioè. Io non lo so, non l'ho visto, non mi permetto. Però, insomma, anche te, determinate tipo Transformer. Comunque, vabbè, come voglio dire, cioè, sta in linea con un determinato tipo di cinema. Sì, questo è vero, questo è vero. Primo, vabbè, ma secondo, cioè, se no non c'è. Ecco, se no non bravo, ci metteva il catalizzatore, non ci metteva i cinesi. Bravo, cioè, per quello là c'è l'avventura, deve creare. Voluto creare, e forse lì è stato spinto da Sony. Qua non c'è sta manco uno che spara. Che cazzo stai a fare? Devi mettere i cinesi, ma ragazzi, un po' di fregna. Che cazzo, quella è mancata rispetto a, per esempio, però i cinesi, ragazzi, i cinesi no. Ragazzi, è stata la cosa più brutta. Però io lo so, io mi ci sono seduto davanti a Beyond proprio facendolo con lo spirito. Ma sì, io mi aspettavo proprio una roba del genere, perché. Io non lo so voi, ma io certe volte me li voglio vedere i film, ma proprio, ah, che bello, le cose che non ti verrebbe mai in mente, per quanto sono ridicole, e lì lui le materializza. Quindi guarda, noi ci abbiamo passato l'estate a vedere i film da merda. Sì, ha voglia. Sì. Ma poi ritorniamo a quello che dicevamo con Giuseppe proprio tempo fa, quando facevamo il video di The Walking Dead. Ci piacerebbe veramente The Walking Dead con la grafica di Beyond, cioè nel senso, cioè, oppure un gioco di Quantic Dream scritto però non da Cage ma da quelli di Walking Dead. Esatto, bravo, esatto. Anche una storia originale, nuova. No, diventerebbe... No, perché quelli di, posso dire, secondo me, quelli del film non sanno invece tradurre il movimento, okay, le sensazioni, okay, in gameplay. Ok, allora faccio pubblicità io. Ascoltatevi la puntata di Free Playing. Che numero è quella che ne parlate? Di Walking Dead? Mo te la dico, è pezzo 4. Comunque, vabbè, loro fanno Simone in particolare fa delle osservazioni, ma anche gli altri, sul fatto della percezione tattile, diciamo così, di quello che costruisce David Cage rispetto a quello di Telltale. E sì, io sono pienamente d'accordo al 100% con quello che hanno detto, vabbè, anche se non sono d'accordo al 100% con quello che hanno detto sulla serie televisiva, ma perché sono dei cazzoni in realtà. Poi vabbè, non anticipiamo comunque punti della scala. No, però ecco, cioè, scusa, finisco dicendo che il fatto, sì, è vero che loro hanno fatto questa cosa rispetto a, però dico, infatti quello che diceva Giuseppe è sensato, cioè nel senso, prendi gli sceneggiatori di coso di Telltale e li butti dentro Quantic Dream, dove tecnicamente sanno fare quella cosa lì. Allora, scusate, la puntata 73. Ok, andatevela a sentire, perché però, Carlo, tu sì, io volevo giusto chiudere con una considerazione. Sì. Secondo me, comunque, vabbè, per quanto gli si possa imputare, giustamente, insomma, alla povertà, insomma, di idee, di cose. Però se c'è una cosa che mi ha accomunato in tutti i giochi di Cage, è che io comunque il colpo di scena finale non me l'aspettavo. Cioè, voi dite sicuramente che chiunque abbia un minimo di cultura cinematografica o televisiva in qualche modo si aspettava che quello è il fratello, si aspettava che mi aspettavo la botta da scemo, non cosa, ah, ok capito, no, perché... non che fossero telefonate, ma semplicemente che fosse la sbroccata la botta da matto. C'ha ragione Simone, secondo me te l'aspetti se se sei concentrato su quello. Io per esempio sì, non ci stavo a pensare, perché per me il problema era un altro. Poi è chiaro che quando vedo che lui sta a fare determinate cose ho capito che è calla, cioè nel senso sì, sì. Anche però perché guarda, però posso dire una cosa, aspetta, fa finire Carlo, si muove, non passa. No, scusa, cioè, in particolare il colpo di scena, adesso non per essere monotematico, però il colpo di scena di Heavy Rain, cioè vedere tutto l'evolversi della trama, di cose, dei bambini, del cantiere, il fratellino che muore eccetera, e poi vedere dopo aver giocato praticamente tre quarti di gioco con appunto ai comandi pure di Scott Shelby, e poi vedere lui che brucia le foto, e tu a quel punto capisci tutto proprio, cioè rimetti proprio tutti i pezzi, tutti i tasselli proprio in fila e dici cazzo, cioè rimani proprio lì e dici oh, è lui, cioè io ho giocato con l'assassino, io ma ancora stavo aspettando, capito, che si trovasse sto assassino, ma chissà chi è, chi non è, forse lo psicologo, forse magari è e quello. Poi ti fa cadere poi, subito cioè, in hai giocato in con il serial killer del gioco in qualche che modo te lo fa pure però simpatico poi modo, no? Sì, lo, cioè, te lo fa pure sì, ti fa entrare in empatia, esatto, che c'ha il ventolin là che c'ha sì, lo spruzzino sì, sì, sì, respira, si deve riprendere, poi si difende la prostituta, sì sì sì, te lo vabbè, fa empatizza sì, subito. No, no, ma infatti io sotto questo aspetto a me pure merito, poi gran pezzo poi, di merda, bisogna dirlo, cioè sì, sì, sì, a me diciamo che volendo diciamo fare questa piccola digressione proprio sull'assassino di Virain, a me sì, ha spiazzato come ha detto Carlo quando c'è la scena in cui alla fine tutti gli indizi che lui in realtà andava a recuperare non erano per le indagini ma perché stava diciamo pulendo le sue tracce, no? Stava però dall'altro lato io mi sono sentito da un lato tradito quando poi ti fa rivedere una scena che tu hai giocato in un certo modo e poi lui te la fa vedere in un'altra maniera, come se in realtà quello che tu hai fatto non l'hai quasi fatto, che è la famosa scena in cui lui va con la madre al negozio di Manfred per scoprire di quale macchina da scrivere si trattava, vero. Della busta, perché in realtà quel momento lui c'è, quando lo giochi te lo fa vedere pure, però è là pure ha dei buchi, cioè ricordiamo tu praticamente a un certo punto poi Manfred se ne va sul retrobottega mentre tu stai giocando con Shelby, l'inquadratura per una ventina di secondi passa su la madre che sta tipo guardando un carillon e poi praticamente subito dopo ritorna su Shelby, esattamente, che si trova esattamente nello stesso punto in cui l'avevi lasciato, quando in realtà poi a posteriori quando si scopre che lui è l'assassino ti fa vedere che in realtà lui in quell'arco di 20 secondi era andato sul retrobottega, l'aveva colpito una botta in testa, aveva pure chiamato la polizia, sì, lì un po'... cioè in 20 secondi. E io mi sono sentito veramente tradito in quel momento da Cage. L'unica... Dovevano chiudere un po', insomma, dovevano tirare un po' le linee, le fila, o quantomeno giustificartelo in un'altra maniera. Perché da un lato là annulli tutto quello che ho fatto giocandolo proprio. Cioè, hai tradito il giocatore, secondo me, la fiducia del giocatore. Poi il resto, tutto il resto ci sta pure il discorso che se appunto ve lo dico sempre all'esperienza che ho fatto di recente pure con i Virain, che mentre giocate non solo sempre in quella scena ma tutte le scene di Shelby, ascoltate con l'apposita funzione, che tra parentesi mi dispiace che non è tornata in Beyond, i pensieri del protagonista, effettivamente i pensieri di Shelby sono un po' diciamo ambivalenti, che li puoi leggere dal punto di vista di quello che fa l'indagine o dal punto di vista del serial killer. Sì, Beyond l'hanno più semplificato, sì. Mm-hmm. Anche le meccaniche di Beyond sono più semplici, non ci stanno quelle cose complicate tipo 60 tasti contemporaneamente, 2-3 al massimo, nel senso, da quel punto di vista l'hanno proprio pulito, semplificato, sì, è diventato ancora più minimale il diciamo i controlli che anche l'ad su schermo. Io perché l'ho laddove... difficile tra l'altro. Non so se mi sembrano ripuliti pure a me, però non so. Nel senso, l'unica differenza tra normale oppure che in realtà lui scriveva tipo nel menu, se non sbaglio, occasionale o esperto, era che durante le sequenze quelle alla tra virgolette Dragon Slayer, se giocavi diciamo occasionale, quindi a quello facile, ti diceva sempre la freccia la direzione del pad della levetta da indicare, mentre invece quando poi lo giochi a normale dopo la prima volta di tutorial non te lo indica mai più, comunque, esatto, perché proprio io non... cioè nel senso, vabbè, una volta quella, quella non capisco me, da che parte devo andare. Quella a me ha infastidito, invece non solo perché tanto. A me invece è infastidito non solo perché è confusionario, ma più che altro perché, sapendo già a priori che non c'era nessun game over, nessuna penalità, come invece accade in Heavy Rain, dove tutti e quattro i protagonisti comunque possono lasciarci le penne, compreso anche lo stesso Shelby, perché comunque Shelby ha due situazioni nel gioco, ricordiamolo, che dove può davvero tirare le cuoie, il gioco insomma finisce con l'assassino che è morto prima di arrivare alla fine. Invece in Beyond tu, cioè, quelle scene potevi anche posare il pad e stare a guardare, tanto comunque andava avanti la sì scena. Però ti toglieva elementi di gameplay, vabbè, ti toglieva pezzetti di cutscene comunque. Sì. Perché io sì, però giocando, diciamo non hai tipo, che so, almeno quello che a me è dispiaciuto che mancava era proprio l'eccitazione, la suspense, il dire oddio, se non lo faccio giusto potrei rimetterci la, insomma, il sapere che potrei andare incontro a una penalizzazione, ecco. Che poi è quello che comunque troviamo in generale, ho detto, anche in Heavy Rain, e ancora più pesantemente se vi ricordate in Fahrenheit, dove praticamente se sbagliavi un paio di tasti, tipo le sequenze del Simon, le dovevi poi ripetere da capo tutte. Perché là non è che c'era tipo i bivi all'appunto Heavy Rain, sì. Che portavano ad altre scene. Là diciamo era proprio videogioco con tanto di continue e di vite. Sì, quello sì. Direi che a questo punto passo al punto successivo. Sì, direi di sì. Okay. Mi dispiace, Carlo. Anche che no, figurati, è una discussione comunque così animata. Ovviamente, Carlo, se avevi qualcos'altro ancora da dire, no, prima che passo, puoi ancora. No. Non è che possiamo qua stare a essere toccati noi. Esatto. Allora, ovviamente, riallacciandosi con questo, quello che solitamente capita è che in generale una trama povera, la maggior parte delle volte, è in realtà la base di grandi videogiochi, a patto ovviamente che noi non concentriamo tutta l'attenzione su questa, però creiamo comunque un sottosistema, un'infrastruttura ludica decente sotto. Nei titoli di Cage infatti è comunque possibile trovare alcune caratteristiche comuni tra queste, tra cui ricordiamo per esempio appunto l'alternarsi delle scene di vita quotidiana e d'azione, seguite anche ovviamente, seguite a volte con controlli più o meno intuitivi, un gameplay appunto, come abbiamo detto anche prima, abbastanza minimale, sia come controlli che come interfaccia, come indicazioni su schermo, e poi appunto il fatto che la storia prosegue sempre, va avanti a prescindere dalla nostra bravura durante i QTE. E anche diciamo dei personaggi in generale quasi sempre, almeno per i protagonisti, ben caratterizzati, chi anche con i propri anche difetti o croci che si porta addosso. Ricordiamo appunto il fatto che Shelby soffriva di asma, Madison che aveva insomma problemi di insonnia. Sì, causati dal fatto che era una reporter di guerra, oppure sempre quello che non piaceva a te come personaggio dell'FBI, che si drogava fondamentalmente. No, ma lui non mi usare, dispiace, per usare Ari. Poliziotto che me stava. Sì. In generale comunque la domanda fondamentale è di tutto questo mix di elementi che trovate nei giochi di Cage, secondo voi quali aspetti contano di più o davvero comunque per realizzare un gioco narrativo? Simone? Che vuol dire? Vuole qualcuno? Cioè tra tutte queste cose che vi ho elencato, quale che secondo voi prediligete, preferite, affinché diciamo quello che state giocando effettivamente risulti essere un gioco di tipo con una predominanza narrativa piuttosto che un gioco classico, ecco. Ah beh, guarda, per me il presupposto fondamentale sono i personaggi. Sì. Cioè nel senso che il personaggio deve essere caratterizzato, anche se a me non mi viene, come posso dire, proiettata o comunque esposta tutta la gamma degli aspetti del personaggio, alcune cose mi possono rimanere anche ignare o ignote. Comunque chi ha costruito il personaggio deve essere estremamente consapevole di chi è il personaggio e fare in modo che questo personaggio si comporti coerentemente a prescindere dal setting e dalla storia che vai a raccontare, chiaramente, cioè nel senso che diventa poi il secondo elemento. ossia la storia e il setting. La storia, perché chiaramente, cioè, se mi racconti una cosa e non me ne frega un cazzo, cioè se mi fai la commedia, io non ci giocherò, cioè, no, nel senso, se tu mi fai comunque un gioco che ha un certo tipo di c'ha un motivo per cui mi possa interessare, è chiaro che lo farò, anche perché poi adesso non è più come prima che Fahrenheit e Heavy Rain erano dei casi unici. Adesso probabilmente anche questa tipologia di gioco narrativo comunque prima o poi si affermerà, forse con delle varianti, forse con delle migliorie, o forse magari in maniera leggermente diversa, ma comunque si affermerà. Quindi non è che lo giocherò comunque perché comunque è un fattore unico, lo giocherò perché ci deve essere qualcosa che mi interessa nell'incipit della storia. L'incipit è il fattore fondamentale, quindi incipit, personaggio come caratterizzazione del personaggio, e il setting, cioè ci deve essere qualcosa nella concezione visiva e fotografica del film, tra virgolette, molto forte, per esempio in Heavy Rain, che in Heavy Rain c'aveva un'impronta estetica estremamente ben delineata, anche se non perfetta secondo me, anche lì forse un po' stereotipata, perché avrebbe potuto rendere il concetto di pesantezza in maniera diversa, però ecco, insomma, comunque ce l'aveva. Forse Beyond da quel punto di vista almeno sì, c'ha più l'impronta realmente cinematografica, ma c'ha meno sapore, cioè nel senso non c'ha una grana o una color correction specifiche che comunque mi fanno pensare a un tipo di storia, o che ne so, comunque gli danno una caratterizzazione o una pesantezza o una leggerezza da quel punto di vista. Poi finendo, secondo me lui dovrebbe, cioè se i giochi che secondo me dovrebbero completamente essere eliminate tutte quelle parti estremamente meccaniche che è vero che lui di fatto ha eliminato lentamente nei suoi giochi, ma che io, se voi avete fatto l'esempio della parte stealth in Fahrenheit, ma secondo me in Fahrenheit la parte più drammatica, soprattutto se lo giocavi col mouse così come l'ho giocato io, era quando lui si arrampicava, cioè quando dovevi fare la destra e mezzaluna, sinistra e mezzaluna, cioè per me quello era un abominio, proprio un abominio. Vabbè, quello fortunatamente è stato attenuato da Viren in poi, perché solitamente questo è mappato sui dorsali, se sì, era il controller, se ci fregasse, esatto. Sì, anche se poi ogni tanto ci sono quei movimenti circolari con l'analogico, roba del genere, che spesso e volentieri rischiano di essere un po' approssimativi, insomma, magari a volte anche un po' inutili, però è vero che insomma, vabbè, comunque il personaggio per me viene prima di qualsiasi cosa. Carlo? No, io sono d'accordo con Simone, sicuramente i personaggi sono proprio la base di un'avventura di questo tipo, insomma, di un gioco di questo, improntato su questo tipo di messaggio narrativo. Ovviamente ai personaggi, secondo me, va accompagnata una scrittura interessante, cioè dei dialoghi interessanti, oltre ovviamente i setting interessanti, anche quelli. Ad esempio, ecco, io ricordo che quando fu annunciato Heavy Rain sembrava comunque un gioco prettamente noir, avevano molto pubblicizzato, hanno messo molto sugli scudi queste ambientazioni, e difatti poi c'erano, però non erano solo quelle. C'erano dei movimenti di macchina anche molto interessanti, che io purtroppo, non so se voi siete d'accordo con me, però io non ho rivisto in Beyond. Sì, infatti per esempio in Beyond una cosa che a me è mancato molto rispetto a Heavy Rain, e anche prima, se ti ricordi, c'era pure in Fahrenheit, sono quelle inquadrature multiple, sì, che a volte capitano esatto, il split screen, comunque proprio tipo anche 3-4 inquadrature diverse per farti vedere un po' che cosa sta succedendo. Sì, però in tutto vabbè, cioè nel senso che questa, a parte che era una derivazione di Fahrenheit, e comunque è una tecnica, diciamo, più specificamente televisiva che cinematografica. Beyond è costruito dal punto di vista visivo per essere un'emulazione di un film cinematografico, che è proprio diverso, ragazzi, proprio come concezione, come linguaggio. E non a caso tu giochi praticamente tutto il gioco con l'aspect radio 2.35, cioè che comunque è il CinemaScope, cioè che può sembrare una paraculata, che probabilmente lo è, però quando tu ci giochi in realtà è molto più naturale visivamente di quanto possa sembrare. e dà un appeal linguistico, ragazzi, specifico. Beyond è proprio bello Beyond. E poi, come dice Simone, c'ha delle inquadrature, secondo me, di ampio respiro. È proprio, ha voluto fare l'opposto degli altri due, che sono più, anche come ambientazioni, che sembrano molto più chiusi. Sì. Nella città, chiusi nelle strutture, nelle case. In Beyond non c'è questa cosa, o meglio, quando c'è quei due o tre momenti in cui c'è, è perché ti ci devi sentire in quella maniera, un po' più intrappolato, chiuso. Per il resto c'ha. Sì, ti dà diciamo momenti più aperti che sembrerebbero visivamente quasi sterminati, tipo per tutta la parte quella dei navaio, insomma, in cui cammini in mezzo a canyon e altri. Esatto, oppure c'è un grosso respiro invece o anche paradossalmente, ripensando proprio all'inizio di quella scena, se vi ricordate, oltretutto quando c'è proprio, a me quella che piace molto, cioè, in generale quella scena non mi è piaciuta, a me, per come l'ha gestita, però diciamo dal punto di vista appunto della ripresa delle inquadrature, mi è piaciuta molto, e mi è piaciuta soprattutto l'inizio, quando c'è Jody che cammina lungo il ciglio ai lati della strada, che tra parentesi, se vi ricordate, è stato ripreso pure da, cioè, o comunque non so chi è dei due è venuto prima come idea, comunque c'era pure nel DLC di Walking Dead 400 Days, sì. Se vi ricordate, sì, quando c'è Russell che sta camminando sul ciglio della strada, è uguale praticamente, sì, però comunque sì. ti dà l'illusione che in realtà tu stai camminando così in un ambiente, diciamo, molto aperto. Utilizza delle inquadrature estremamente cinematografiche, anche stereotipate per certi versi, però tecnicamente corrette, perché per esempio l'introduzione con il campo lungo e poi i piani medi e i primi piani sono bilanciati, mentre su Heavy Rain non è così, è più televisivo, cioè Heavy Rain e Fahrenheit sono televisivi. Questo è proprio cinema, cioè nel senso è proprio. Sì, sì, proprio. Addirittura, proprio, infatti, Heavy Rain si apre con una scena televisiva che è tutta quella, diciamo, di Ethan che si sveglia, come se fosse, diciamo, una prima puntata di una serie, bravo. Dove c'è il protagonista che si alza dal letto, si va a fare, si va a preparare. Il culo anche. Esatto. Marco, tu? No, finire di dire qualcosa, Carlo. Ah, scusa Carlo, vai. Era no, vai. Più un pensiero alta voce, anche perché poi alla fine questi, cioè, noi parliamo di gente che comunque ha proprio il non plus ultra, secondo me, su quello che è la parte tecnica, e non solo la parte tecnica intesa come grafica proprio dei giochi che fanno, ma anche come proprio motori che cercano di replicare le espressioni umane, che secondo me su Beyond fanno, cioè, delle robe veramente meravigliose, proprio, credo. Sì, sono andati oltre, sono andati veramente oltre. Sono andati Beyond. Secondo me, cioè, loro gli strumenti ormai tecnici ce l'hanno, ma ormai da un pezzo. Per cui, secondo me, dovrebbero impegnarsi invece su quello che è la parte più, diciamo, laconica, che è appunto più lacunosa, anzi, che è quella della scrittura, che non sta dietro a un prodotto così bello visivamente, purtroppo. Un bel film di no, io più o meno sono d'accordo con tutti quanti voi, che devo aggiungere? Comunque se hai un buon set di personaggi, una discreta storia, non dico, cioè, la storia della vita, ma una discreta storia, sicuramente riesci a fare un prodotto decente. Poi certo, nell'ambito dei videogiochi ci deve essere anche la parte ludica, se magari floppi su quella potrebbe non riuscire un buon titolo. Però normalmente, ma aspetta, quando dici parte ludica, comunque, diciamo, nel senso, a te non è piaciuta in generale la parte ludica dei tre giochi non è questo, cioè se fosse quello il problema avremmo capito già dal primo l'avremmo capito, avremmo capito, insomma. No, quello lì è divertente, è comunque una cosa, un modo di giocare diverso, quello sicuramente, più a volte più ragionato, a volte più incasinato, dipende dalle situazioni, è proprio in generale, io sto dicendo, un gioco narrativo, ovviamente le cose che sono più importanti sono tutto ciò che ha a che fare con la storia, per cui personaggi, storia e interazioni tra di loro. Ripeto, però, essendo un videogioco, anche la parte ludica, cioè il gameplay, ha la sua importanza, perché se poi quella annoia ma è un videogioco no, non vogliamo, diciamo. No, dai, scherzavo. sì, sì. Sì, Simone, tu? Allora, io perché devo fare sempre quello, lo scelt, eh? L'alternativo. Allora, in un videogioco la trama e i personaggi in linea di massima ormai ci stanno al 70% sempre. Gli elementi che danno il senso narrativo forse è proprio lo sviluppo di una storia, il disgregarsi di un intreccio, l'assenza di un hub. Cioè, a schermo, meno ci sono elementi a schermo, meglio è, più c'è immedesimazione. Sì. E la regia, che manca completamente nei giochi canonici. Uh-huh. E anzi, l'aspetto narrativo delle cutscene spesso è perché la camera si sposta rispetto a quello che è stato fino a quel momento. Quindi, specialmente negli ultimi tempi, in cui ci sono filmati, tra virgolette, cutscene con motore di gioco e qualche filtro in più, cos'è che dà la differenza e ti dà il senso di qui c'è il filmato, come si diceva prima, e come si diceva ai tempi, col pezzo di storia in più? Il movimento della camera, che diventa, che acquista un linguaggio filmico o comunque cinematografico e narrativo. E rispetto a tutto il resto della parte di gameplay, dove la camera serve semplicemente per inquadrare l'azione e quindi ha un altro motivo di esistere, è un altro linguaggio anche. Esatto. Io... quindi vabbè, finito. Vai. Questo è l'elemento principale, potrebbe essere proprio questo. Io ovviamente condivido pienamente tutti i punti che avete precedentemente evidenziato. Io in particolare poi ne aggiungo o rilancio con altri due, fondamentalmente, che sono sempre comunque inerenti alla parte dei personaggi. Innanzitutto, una cosa che mi piacerebbe avere di più relativamente ai personaggi è una scelta che invece non troviamo, secondo me, tanto nei giochi di Cage, ma si trova in quello di Walking Dead, che è proprio un certo rapporto che hai con una certa interazione che hai con gli altri personaggi, ossia il fatto che quando dici alcune cose c'era il famoso messaggio tizio si ricorderà di quello che hai detto. Ovviamente non voglio che spunti nei giochi di Cage, ma che però questa cosa venga comunque internamente considerata, cioè che magari sarebbe bello che quando nelle conversazioni di Cage, che secondo me sono fatte bene, quando è presente che c'hai tutte le varie scelte che puoi dare, che oltretutto secondo me è giusto farle nella maniera di un semplice azione piuttosto che dare l'intera frase come capita nei giochi di Telltale, no, per intenderci, durante i dialoghi a scelte multiple. Secondo me ci sta che magari appunto i personaggi poi sviluppino un certo rapporto con il protagonista e rispondano a tono anche nelle scene successive. Questa cosa, notate, nei giochi di Cage è quasi assente, ma forse perché li si incasinano troppo poi dopo. Secondo me questo lo rinforzerebbe ancora di più il gioco narrativo, perché fondamentalmente ricordiamo che parte di tutta la trama eccetera la fanno i personaggi, no? Sì, però più lo imbinari il gioco, più è meno soggetto, certo, ad andare in vacca, lasciando stare Cage, No, a parte il fatto che secondo me, ecco, per esempio nel dialogo multiplo dover leggere tutta la frase, per esempio, mi fa perdere tempo e ritmo, no? No, ma poi non ha senso questa cosa, te lo dico subito, perché noi quando dobbiamo dire una cosa non è che è caduto qualcuno? Vai tu, tanto vai. Sì, diciamo, quando noi dobbiamo esprimere qualcosa che pensiamo, non è che pensiamo a tutta la frase che dovremmo dire in quel momento a quella persona. Pensiamo, diciamo, davanti agli occhi. Infatti scelgo. Pensiamo, diciamo, a un aspetto chiave, no? Tipo, sono d'accordo o non sono d'accordo. Non è che diciamo, guarda che io non penso che sia così perché, esatto, no? Quando rimurginiamo mentalmente prima di, anche perché abbiamo un tempo limitato, prima, diciamo, poco tempo per rispondere, altrimenti quello ci prende per ritardati, no? No, scusa, sto leggendo la frase. È così. Sì. E poi l'altra cosa che mi piacerebbe è il fatto che è importante, che conta in un gioco narrativo, è comunque l'empatia che il giocatore ha con i protagonisti, perché appunto, almeno nel caso come è successo a me di Beyond, mancando molto quella per me, sempre per un punto di vista soggettivo, insomma, quello mi ha allontanato un pochettino, secondo me, dal godermi appieno il gioco. Ma allora vabbè. Diciamo, il farti provare, appunto, il farti stare vicino, il farti accomunare, il farti dire effettivamente sì, quello che io sto voglio fare, guarda, il gioco me lo fa fare. No? Beh. Perché a prescindere che la scelta ci sia o meno, comunque se io penso una certa cosa e quel personaggio comunque in qualche maniera me la giustifica e quindi mi fa sentire vicino, mi fa percepire che ce la intendiamo allo stesso modo, allora secondo me là davvero è una cosa che funziona, cioè, che dà un plus valore al gioco narrativo. Allora direi a questo punto di passare al, se non avete nient'altro da aggiungere, no, al punto successivo. Sviscerato, insomma, questa volta, anche okay, che siamo tutti quanti d'accordo su più o meno le stesse cose, dai. Allora, a questo punto avevamo già parlato, mi pare, o comunque anticipato il discorso che Cage, e comunque lo sanno tutti ormai, anche perché è italiano, che Cage è al lavoro già su un titolo per PlayStation 4, tant'è che infatti la stessa tech demo del Dark Sorcerer presentata appunto all'evento Sony dell'anno scorso, la presentazione di PlayStation 4 dell'E3, è anche presente, se non sbaglio, tra gli extra pure di Beyond, no? A questo punto anche io vi chiederei, le tech demo dei Quantic Dream di solito non hanno niente a che vedere col prodotto finale, esatto, sì. Esatto. Io, diciamo, partendo comunque dalla consapevolezza che nel momento in cui stiamo parlando Cage sta scrivendo la sceneggiatura per il suo, cioè, deve essere qualcuno il suo prossimo titolo, è proprio in questo, no, proprio adesso che sta mettendo, ci sta mettendo il troll, adesso sta mettendo il troll nella storia, no. Oh, immagini come si chiama quell'altro, il CEO de Quantic Dream, Jegoyon là, no? Cioè, sa faccia, perché lì poi se vedete c'hanno tutti sti open space, sa faccia, vede Cage che sta lì capendo, no, sta scrive, fermatelo, esatto, ci si lancia, ho io... una penna in mano e non ho paura di usarla. Esatto. Io vi chiederei, appunto, partendo dal fatto, così fantastichiamo, facciamo finta di entrare nei panni di Cage. Okay, allora per il prossimo, sì, per il prossimo titolo di Quantic Dream su PlayStation 4, quali, insomma, come lo vorreste, quali aspetti aggiungereste, cambiereste, quali lascereste inalterati e perché, ovviamente. Allora, vai, prima di tutto mi piacerebbe che a Cage avesse la comprensione e l'umiltà di capire che c'è un momento in cui le tue idee devono essere supportate da un team e che non puoi fare da solo, cioè, nel senso, perché c'hai un problema, è ovvio, che non è il problema che ti fa parlare dei serial killer o dei bambini rapiti e morti, ma neanche quello delle intelligenze artificiali, tutto sommato, cioè. anche se lui ammette che comunque tutto questo arriva da dei suoi problemi personali, cioè lui comunque lo contestualizza sto discorso. Vabbè, pure Beyond, diciamo, è nato in seguito ad alcune, sì, perdite. Sì, esatto. Infatti lui ha voluto esplorare questa cosa del dopo, sì, del dopo la morte, no? Quindi e quello che mi piacerebbe, appunto, questo sarebbe già la prima cosa. Quello che mi piacerebbe veramente come tipo di storia, allora, vorrei un mix tra le meccaniche di The Walking Dead e The Beyond. Con il look ovviamente di Beyond, se non portato chiaramente all'ennesima potenza, perché chiaramente poi ora siamo su un hardware che chiaramente può fare di più, perché comunque insomma i muscoli tecnici di Quantic Dream, esatto, con una storia estremamente realistica, ma realistica e ben scritta, quindi diciamo col cervello di esatto, Telltale, un poliziesco. Ah, ecco, una storia poliziesco proprio, anche magari in senso classico, non è detto che debba essere forza, un investigativo, però fatto bene e con le meccaniche de Beyond, perché ad esempio su Beyond le meccaniche action, tra virgolette, so sempre le meccaniche, però gli davano quel ritmo in più, comunque le scene in Somalia, le coperture, capito? In qualche maniera, so stupidaggini, però comunque gli davano quell'aspetto in più, tant'è che l'altro giorno, mentre che rigiocavamo con Marco diceva, sai, sarebbe, non condivido, diciamo, il pensiero, però mi ha fatto riflettere sul fatto che sarebbe bello un gioco che sia un po' questo e un po' gioco normale. Esatto. Sì, infatti, cioè, se tu vai a fare una, cioè, allora, una scusa, storia di cosa... un dico mercenario che lavora con lo gruppo Assassin's Creed, sì. Che praticamente comunque quando finisce di far mercenario torna a casa, c'ha magari la moglie e la figlia, è apparecchia, per dire, molto sto di una cavolata, però è fatto decentemente, che alla fine non ti spunta fuori il troll e dice io sono il troll e io adesso da mercenario il troll si ricorderà di quello che hai detto, diventerai un puffo viola, cose che potrebbe fare, che zitto, non glielo andare a dire perché lo fa. Beh, certo, il fatto che ci ha messo il goblin comunque in ogni caso deve essere anche un fantasy, chi ha detto, cioè, vabbè, guarda questo, però in ogni caso magari se un fantasy fatto bene anche un gioco di maggiore durata, ma si presta poco, perché magari è anche ironico, perché per esempio, cioè, allora comunque io vorrei un poliziesco fatto con le meccaniche di Beyond, ovviamente con un'attenzione di più, ancora di più attenzione al dinamismo. Ecco, diciamo questo è importante. Solo tre piccole pseudo domandine prima di passare agli altri. Diciamo, per sapere anche te, in questo tuo poliziesco, innanzitutto, ti piacerebbe avere che tornasse il game over, magari ad alcuni gradi, oppure lo vuoi comunque dall'inizio alla fine come Beyond? Che comunque qualunque cosa fai, Heavy Rain anche. Sai che no, magari diciamo già Heavy Rain aveva appunto quindi lo vuoi comunque con alcuni possibili gradi di fallimento. Esatto, sì. Ok. Cioè, secondo me la soluzione che lui aveva trovato su Heavy Rain era giusta dal punto di vista del gameplay. Dal punto di vista narrativo sarebbe più giusta quella di Beyond, perché comunque racconta una storia e te la porto a termine. E dal punto di vista, diciamo, di come viene raccontata la narrazione, come lo preferisci? Come sempre sullo stile di Heavy Rain e anche di Fahrenheit, quindi narrazione cronologica, o ti è piaciuto magari anche da più punti di vista di personaggi, o ti è piaciuto, diciamo, lo vorresti più come Beyond con diciamo salti temporali? No, allora, la narrazione, la sceneggiatura deframmentata, che è andata di moda da quando c'è stato Memento, ha senso se è contestualizzata con un certo tipo di narrazione. Non è detto che può andare bene per qualsiasi tipo di storia. Cioè, se racconto un poliziesco e te lo faccio deframmentato, o c'è una ragione, non ha senso, oppure non c'ha senso. Cioè, nel senso, quindi non me ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, comunque la forma scrittura tradizionale per certe cose comunque funziona. Ci sono delle volte in cui puoi fare un'eccezione, perché magari in quella frammentazione c'è l'evoluzione che gli vuoi dare tu, capito? Cioè, tu metti un ordine nel disordine in qualche maniera. E in Beyond questo funziona per certi versi, però no, era un poliziesco comunque. Marco, te che già avevi, diciamo, il zinne poi poi innanzitutto mi rimetterei comunque il game over, perché ma sti cazzi, cioè alla fine non è un dramma se muori. Ma game over sempre di questo come tipo alla Heavy Rain, oppure game over alla Telltale ma sti cazzi della storia, tu se tu muori poi come su The Walking Dead, sei morto e riprova, poi alla fine non è dramma, sì, infatti non è un dramma, però perlomeno per dare un po' più di enfasi alla cosa, insomma, perché sennò, se proprio non puoi fallì, è come Prince of Persia, quello lì che un po' di morì, tu balle. E non cascavi mai, cioè che... c'era sempre Erika che tirava su, capito? cercare di superasse, perché tanto pure se sbagliavi, come se non successe niente. No, magari come dicevo prima, un gioco dove c'è classica, che ne so, sparatoria in terza persona, per dire, una cazzata, unite a investigazione, che potrebbe essere sia poliziesco o non, investigazione generica o vita quotidiana, con le meccaniche di appunto di Beyond, di vari giochi, quindi un mix. C'ho anche la giustificazione per la morte, perché tanto ci metterebbe sempre qualche cosa in mezzo di strano, e lì potrebbe essere il protagonista che quando muore in realtà poi dopo si risveglia a un punto di salvataggio prima, però ricordandosi che è morto. Cioè ovviamente lui c'ha questa capacità che tanto lo fa, però lui c'ha questa cosa, si ricorda che è morto e quindi può evitare di morire per davvero. Guarda, c'era un telefilm che faceva una cosa del genere, che era quello che si svegliava ogni mattina e viveva la stessa giornata. Vabbè, quello sì, c'entra niente. Cosa era? True Calling, Break, era. Adesso non mi ricordo. Una cosa del genere. Comunque, se riuscissero a fare in generale un gioco dove ci sono meccaniche di vita quotidiana, anche diciamo con normali il rapporto tra in famiglia, moglie, uomini della penetrazione, la penetrazione e poi dopo ci stanno precisa, però certo, tipo The Witcher 2, mica si vede, no, non si vede, non si, si intuisce, ma vabbè, grazie, sta scopa. E quindi è più un, appunto, una, diciamo, una, un gameplay più classico da, da gioco, da sparabrutto, da, da quello che volete. Cioè, praticamente vorresti una fusione tra, sì, i giochi di Quantic Dream e quelli di Rockstar? No, oppure quelli di Naughty Dog. Naughty Dog e Quantic Dream. Ah, che figata che esce fuori. Secondo me verrebbe una gran figata. Perché no? Oppure una bella storia sci-fi, ma di quelle, cioè, nel senso, se Quantic Dream telefona uno, tipo, che ne so, un buono scrittore. E non le di tutte, però, che devo parlare con altri due. Un buono scrittore di fantascienza gli dice: senti, vieni qua, fammi finta che lo fa David Cage, però tu poi dopo. Fai Ghost Rider. Ovviamente, prima di continuare, stiamo, diciamo subito che, caro David, o anzi, David De Gruttola, che se sei in ascolto e ci rubi poi le idee, noi vogliamo la percentuale. Per, vogliamo la percentuale per, tanto io oggi ho fatto causa a Fastweb, quindi posso far causa pure a lui. Che hai fatto te? Sei in gran forma. Sì, sì, io poi sono so abituato, io fiocco, sì, cause a tutto spiano. Carlo Simone, l'altro, chi dei due vuole? Vai Carlo, ti lascio la parola. Lascio la parola. Io vado in controtendenza con quello che avete detto. Poliziesco, sì, io credo che non lo so, lo incentrerei più sull'investigazione, perché comunque la parte investigativa di tutti i giochi a me è piaciuta molto. In particolare, tipo, ecco, tornando... quindi praticamente qualcosa più vicino, tipo, come investigazione, non come meccaniche di gioco, sì, sì. Tipo alla, sulla falsa riga di L.A. Noire. Sì, beh, oddio, magari anche se l'investigazione non c'ha cagalli, no, investigazione è stato come idea, come non idea, come idea, sì, non mi dispiace, esatto. Anche come ambientazione, no, magari di quegli anni, non sarebbe male, potrebbe essere una cosa interessante magari. E comunque, ecco, mi ricordo, ecco, l'investigazione per esempio in Heavy Rain era molto carina, quella parte lì con la raccolta, quella con Ari, sì, sì, sì, delle prove, sì, tutto, cioè, il voi non la voi non la trovate decontestualizzata, cioè in una storia del, no, è assolutamente decontestualizzata del 2006, per dire, sì, però secondo me funzionava quello, funzionava molto meno per esempio le sparatorie, quelle pochissime, insomma, che abbiamo visto. Sì, vabbè, quella più assurda è la scena dove praticamente Shelby fa tipo Rambo nella villa del padre del malavitoso, sì, se cagata, no. anche perché sembra che ci abbia tipo il caricatore, sì, infinito, sì, sì. No, sembra c'ha il caricatore, la pistola, sì, è assurda quella. Comunque, dicevi, Carlo, per cui, ecco, insomma, sì. Quindi sparatorie no, investigazione sì, ambientazione magari, ecco, che so, ma ripeto, sarebbe interessante vederlo magari all'opera su un setting anni 50, anni 60 magari, figo, ma bravo, anche con il classico stereotipo dell'investigatore proprio del molto noir, range, proprio, sì. Cioè, molto noir, sì. Game over sì, perché questa storia del game over no, non ci piace, secondo me non funziona su, specie su Beyond, secondo me è veramente troppo. Cioè, lei veramente, se tu anche puoi mancare tutti i quick time event, no, tu puoi posare il, sì, pad, sì, posare, e startene a contemplare la scena che va avanti, che prende le botte, che sganasse, cioè, gli fanno una faccia così, però non muore mai, perché non può morire. Non lo so, no, sì, no, non, è vero, è vero, è vero, non è vero. Funziona. Per quanto, ripeto, insomma, io magari andrei a limare questi angoli che sono grossolani, però per il resto, insomma, non ho dubbi che magari possa venire una cosa, indipendentemente magari da un buon prodotto. Un buon prodotto, sì. Simone? Allora, io per quello che riguarda la novità, mi piacerebbe un Fahrenheit 2.0, nel senso, butta giù tutto quello che c'è stato da un certo punto del gioco in poi e da lì costruire, perché aveva molti elementi che mi piacevano, tra cui questa, come avete detto anche voi, il fattore thriller, il fattore poliziesco, sì, il fattore investigazione, il fattore chi sarà stato, funziona molto, perché poi è un, è come se fosse la continuazione di quello che succede al cinema, dove però tu puoi interagire, perché mi viene banalmente da pensare quando al cinema, oh, fai così, ma perché non fa così questo stronzo che fa, cioè il commento medio di una persona mentre vede un film del genere è, secondo, almeno per me, è questo, dove cioè, viene fatto qualcosa che non approviamo, in qualche maniera cerchiamo di è come se fossimo entrare dentro alla storia e essere coprotagonisti del film che stiamo vedendo. Quindi quello è un elemento che sicuramente prende a livello di, e poi si avvicina anche alla parte videoludica, videogioco. Per quello che riguarda però l'aggiunta mia è una, cioè mi piacerebbe sfruttare le nuove possibilità che ci potrebbe avere la nuova console e anche quello che ha fatto fino adesso, aggiunto a meccanica alla cioè un bel processo, cioè sfruttare tutto quello che hanno fatto LA Noir su interrogatori, ovviamente non parlo per la parte di investigazione, ma sfruttarlo poi pensate a un bel ring finale iniziale, la giuria, cioè ci potrebbe essere una bella interazione, perché mamma c'è già stato Law & Order, una merda. No, ho fatto proprio i Telltale, l'ho recensito anche quel gioco. No, non l'ho giocato, quindi appunto dico sfruttare quindi non lo so, però quello che mi viene in mente potrebbe essere un'altra cosa che mi piace molto, è proprio quel tipo di, infatti io vado matto per i Saturni e Phoenix Wright, cioè il gioco del DS, che è meraviglioso da questo punto di vista. Per quanto riguarda il gameplay, io mi voglio far stupido, non voglio cioè, far tornare ai tempi di Fahrenheit Night. No, mi stupisca lui. Mi stupisca lui, mi deve stupire, perché mi devi dare qualcosa che io facile, non so di volere. Che ti stupisca è facile. Sì, però insomma, già l'idea tua per dirti che hai detto prima, ma è molto più, l'apprezzo, apprezzare molto di più del semplice game over, perché poi alla fine vabbè, come poi ho detto, ma è un'idea mia, cioè sono passaggi che lui sta facendo per arrivare, secondo me, a un prodotto, cioè passa da una parte all'altra, e questo è un passaggio obbligato, è stato quello prima del game over, poi ha fatto i personaggi scritti in maniera che se ne moriva uno si poteva continuare la storia, e comunque è un culo con un secchio, secondo me, in Evidence. E adesso ha fatto questa, sì, questa, un culo con secchio, ma ha levato risorse alla storia vera, poi però lo so, però questo è quando rimani impantanato nel dover essere un videogioco a tutti i costi, o voler accontentare tutti, capito? Quindi sì, a questo punto è la migliore situazione alla Beyond, perché che poi alla fine sì, puoi anche appoggiare il pad. Io mi sono accorto, forse è un flash mio, ma mi sono accorto che se tu le cose le fai bene vedi pezzi di cose in più, e pezzi di cazzine in più, pezzi di ricordi suoi, ci sono delle cose che succedono in più, però non te lo saprei dire, perché non l'ho, forse ho avuto questa sensazione, ma non te lo so dire, non te lo so dire al 100%. La cosa divertente su Beyond è fare il contrario, se lo rigiochi, fare tutto il contrario di quello che hai fatto in precedenza, perché lì veramente vedi scene in più, cose diverse più che in più, cioè nel senso, sì, infatti io l'ho ricominciato spinto dalla mia compagna, dalla mia ragazza, insomma, perché lo sapevo, avendo giocato Irene con lei, e l'ho trovato, cioè quando ho finito di vedere il giorno dopo lei si è svegliata prima di me, se l'è ricominciato da sola, stava scimmiatissima per vedere gli altri finali, così colà, e ho preso Beyond aspettando lei per giocare, quindi l'abbiamo giocato tutto insieme, perché non dimentichiamoci che Beyond c'ha la possibilità di in coppa, sì, essere giocato in due. Quella è una bella idea, è la cosa più bella per chi normalmente per chi non è avvezzo, la cosa diciamo, più bella è che lo puoi giocare con l'app sul telefono, quindi lei sì, pure è rimasta, a parte che lei gioca, quindi insomma il pad non è che gli dava problemi, però io non avevo pad in quel momento, lei con l'iPhone tac, si è messa l'applicazione e ha giocato, faceva il fantasmino, spieghiamo una cosa, che si può giocare in cooperativa con i due joypad ed è la soluzione migliore, esatto. Altrimenti si può utilizzare questa app, ovviamente gratuita, poi tramite wifi ovviamente ti colleghi con la PlayStation e l'app fa Aiden, e giocando con Marco, ovviamente io sono Jody e lui è Aiden, perché lui è la parte male. No, l'unica cosa, diciamo, che a me è piaciuto, infatti ho detto recentemente, l'ho pure io ricominciato pure con un amico a giocarli in due, se non fosse altro perché mi pare che ci sono due trofei obbligatori che puoi sbloccare solo giocando in due, però mi è dispiaciuto notare che questa cosa non l'avevo chiara, che purtroppo non è mai, diciamo, un gioco in contemporanea, cioè sei comunque costretto a passare, no? Certo. il comando all'uno all'altro. Cioè, sarebbe stato per esempio più bello se in qualche maniera si trovava un espediente per il doppio, diciamo, monitor. Esatto, sì, per fare comunque tutto in contemporanea. Ma, no? Guarda, secondo me invece c'ha, almeno come l'ho vissuta io, è divertente che vabbè dai fai tu, lei mi fece dai mi fai vedere a me, io facevo che ne so, sì vabbè dai vai a vedere, e io facevo guarda vai là, cioè diventava molto più cooperativo, perché io dovevo consigliare lei quando io ero giovane, dai fai così fai quella, per dire, io l'ho fatti mettere insieme perché lei rompeva con io, dai bacialo dai, perché lei se lo vedeva dal suo punto di vista. Infatti secondo me Beyond riesce dove ha fallito Heavy Rain, da sto punto di vista, che anche Heavy Rain era spacciato come il gioco che potevi fare con la moglie o la fidanzata o con la famiglia, roba del genere. In realtà lì la cooperazione si limitava al fatto che ognuno poteva fare un personaggio, ad esempio, se proprio volevi. Si passava la staffetta, il joypad, invece qui c'è non solo una cooperazione, nel senso che comunque anche se hai interscambio, però in effetti come diceva giustamente Simone, c'è anche modo di dire tu come fallo così invece di farlo in quell'altra maniera, oppure poi ognuno decide di interpretare il proprio personaggio in una determinata maniera piuttosto che un'altra, e questo lo rende più divertente, perché c'è comunque anche un coinvolgimento, un'interazione, una discussione, quindi secondo me in questo riesce bene. Sì, sì. E per chiudere dico quello che mi aspetto dalle nuove generazioni, dalla potenza di Digital Delivery. Mi aspetto che Cage cominci a fare delle cose Digital Delivery. Mi aspetto che lui cominci a fare delle cose episodiche, perché sarebbero la morte sua, diciamo, nel senso. E secondo me non solo so il futuro, ma c'hai ragione, sì. Perché questo comunque è molto difficile per Cage. Lo so, ma se lui, lo vedi come... se lui facesse una serie TV, magari non la dai settimanale, magari, ma pure settimanale, ti inventi una cosa che dura, però lo fai, certo sarebbe investito una cifra di soldi, cioè lo fai diventare un evento con pubblicità seria, una cosa fatta bene, e tu ogni settimana fai la puntata che cioè viene una roba devastante, oh bello viene. Guardate che poi se ci pensi non è ancora assolutamente chiaro, ma secondo me è quello che Xbox sta facendo con Quantum Leap, secondo me, no, con Quantum Break. Vabbè, ma per me stanno perdendo qualsiasi tipo di appeal. Sì, sì, no, questo è vero, però ho capito quello che dici, io sono d'accordo con te, cioè, si devono sozzare le mani, sporcare le mani, quindi ha iniziato un po' Cage con Beyond, e è sicuramente un pioniere insieme a Telltale, questo c'è poco ma sicuro. Beh, i Telltale si sono limitati a perfezionare secondo la loro visione un qualcosa che qualcuno ha fatto per loro, cioè, perché comunque il vero pioniere è David Cage da sto punto di vista, che poi dopo siano zozzone narrativamente, bisogna riconoscergli che comunque lui ha comunque portato un'impronta che secondo me è la logica che piace a Sony, perché Sony non vuole soltanto la macchina da gioco, ma vuole lo strumento di intrattenimento interattivo che ok, cioè nel senso è diverso come concetto, perché altrimenti non ci sarebbe. Guarda, nessuno... non, secondo me vuole il vanto di avere, perché poi l'ha fatta una e gli altri giochi hanno fatti due in una generazione. Sì, capito? Ho capito, ma non ci avrebbero continuato a investire soldi, voglio dire. Cioè ci hanno investito, ma perché se rientra nel concetto. Ma loro possono pure crederci, ma se non lo foraggi in qualche maniera, stiamo con uno che non sa scrivere e con giochi che escono una volta ogni tot, magari azzoppati e rattoppati. Ho capito, però scusate, io questa poi è una domanda che faccio a tutti e poi rispondetemi magari a rotazione. Allora, dato che Sony non è l'ente di beneficenza e appurato il fatto che David Cage non è capace a scrivere, perché cazzo di motivo questi gli danno i soldi? Gli danno i soldi per una motivazione, secondo me, che è quella che loro credono in un certo tipo di visione, che poi ovviamente non deve diventare assoluta, perché loro comunque fanno videogiochi, però loro vogliono anche quello, cioè vogliono l'intrattenimento interattivo che può essere anche a disposizione degli altri, che gli altri si intende tutti quelli che non sono videogiocatori. E gli danno i soldi. Finisci, vai. Allora, per me gli danno i soldi perché quando devi spiegare a qualcuno, specialmente in Sony, che fanno anche i videogiochi ma non fanno solo i videogiochi, quando devi presentare un progetto e spiegare un gioco, se fai vedere un linguaggio molto più simile al film, quello che viene in alti, ah bello bello bello. Se fai vedere non vabbè, so, Rain, ma qui stiamo a parlare di milioni di dollari, su, mo questi non spendono decine di milioni di dollari per far vedere. A parte che uno... Sony, altra cosa, Sony qua, Sony è Quantic Dream è first party. No, Quantic Dream non è first party. No, Quantic Dream è second party. Sì. Second party. I soldi li mette Sony al 100%, siamo sicuri di questa cosa? Altrimenti non so se questi sarebbero sopravvissuti. Cioè, vabbè, se il publisher è Sony, se gli ha prodotto Sony, probabilmente gli avrebbero messo i soldi. Sì, quanto è costato? Non è solo un'esclusiva, è proprio prodotto da Sony. Capito? Cioè, nel senso... Quello volevo sapere, se mi confermi, sì, giustamente è una cazzata. Sì, è pubblicato da Sony, quindi insomma sono loro. E quanto è costato? Quanto sono rientrati? Perché se loro sanno che costa quello che rientra, cioè rientra quello che poi loro spendono. Tutto sommato non è un... Io penso che intanto un minimo di guadagno a distanza da ottobre, quindi da 6 mesi. Sì. Sì. Un minimo di ritorno l'avrà avuto, certo. No, non sono appunto le vite, non sono le vite. Però tu la devi vedere nell'insieme dei due giochi, eh? Sì, sì. No, poi, cioè, non stiamo a parlare di Beyond, stiamo a parlare di Beyond. No, Simo, quello che voglio dire è quando io ti presento Heavy Rain, te lo faccio capire per farmi dare i soldi, te li faccio capire. Tu dici, sta a parlare di Beyond, sì, ma. Sì. Quando sei più vicino al produttore, il produttore riesce a capire quello che tu c'hai in mente, te li dà molto più volentieri i soldi. Sì. Ma io questo ho capito. Perché quello che vuoi dire, page, però... Defoe, quello influisce. Non capito, che Sony non ce l'abbia in testa. I produttori sono loro, non è che devono convincere qualcuno, che si autoconvincono da soli. Cioè, non è che se, cioè, il problema è questo, secondo me. No, okay, è che Sony, a differenza delle altre company che fanno altri competitor, ha tutta una serie di settori che sono legati all'intrattenimento, che dal cinema alle televisioni, al 3D, ai proiettori, alle console, ai videoregistratori, ai Blu-ray e via dicendo. Quindi di conseguenza quello che interessa a Sony è costruire un modello che possa essere compatibile anche non soltanto per i videogiocatori, che non sia solo quel modello, chiaramente, perché comunque PlayStation it's for the gamer, ok? Però comunque loro hanno puntato, secondo me, su sto modello proprio perché comunque gli interessava portare anche qualcosa di più. Come tempo fa erano usciti, non so se vi ricordate, quei DVD interattivi, no? Quelli là tipo di Siberia, c'era Siberia il gioco, sì, poi dopo erano usciti proprio a forma di laser game, praticamente il stesso gioco, soltanto che ovviamente quelli erano esperimenti fallimentari perché chiaramente c'erano dei limiti che erano oggettivi. Qui si parla di interazione tra virgolette pura, perché comunque quello che tu vedi in quel momento si muove in tempo reale tramite la macchina, quindi in teoria virtualmente tu ci potresti avere un'interazione infinita, poi che non lo è un altro discorso. Secondo me a Sony interessa sto processo, interessa un processo che sia comunque legato alla parte ludica tanto quanto alla parte del puro intrattenimento, che può essere comunque interattivo, e quindi presentare ancora una volta un qualcosa di innovativo verso l'esterno, verso comunque il mercato che è sempre nei confronti del quale comunque è sempre stata una società che comunque ogni tanto tirava fuori cose non indifferenti, abbastanza interessanti. Poi questa è la mia visione, non so se Marco vuoi dire la tua. Secondo me te frega a cazzo. Si tromba la figlia di Sony. Sì, pure secondo me. La figlia del signor Sony. La figlia di Sony. Ma io è vero che comunque scusami Marco, volevi aggiungere? No, niente, io c'ho sempre questa cosa, sta visione di David Cage che in questo momento da qualche parte sta scrivendo e col capochino, quello ti rovina e ci stanno delle persone intorno che solo guardano, che solo guarda. Poi a un certo punto alza la testa e dice: ce lo posso mettere ieri? No, David, no, ieri no. Ma no, dai, fammi ce lo metto. Piccolo, no, iedino. No, ce lo può mettere. Vabbè. E torna a scrivere. E lì poi dopo, capito? C'è sempre questa visione. Che brutta immagine. Ma è così, dai. Carlo? No, riflettevo sul fatto che comunque Sony si è sempre prestata, come dici tu appunto, all'inserimento di questa tipologia di prodotti poi nel catalogo. Mi sembra comunque, a conti fatti, l'unico esperimento similare alla lontana, se vogliamo, che è stato fatto su console Microsoft era proprio Alan Wake, correggetemi se sbaglio. No, era quello che voleva essere, ma che non è stato poi. Mm. Comunque doveva essere l'antagonista di Irene, quello. Sì. È stato l'antagonista di se stesso. Aspettate, film. Non era un film interattivo di Alan Wake. Ma non si era capito. All'inizio doveva essere l'antagonista di Heavy Rain. Ma io non, se tu me lo dici con questa sicurezza com'era, io ti do l'idea. Mi ricordo gli articoli e quando facevano comunque i trailer, che erano ovviamente i trailer di risposta ai trailer, che i primi trailer che iniziavano a uscire, e ovviamente erano tutte le parti cinematiche e che dimostravano comunque quant'era cazzuto anche il motore grafico e quant'era cinematografico anche Alan Wake, e l'intenzione, diciamo, era quella. Poi che il gioco voleva essere tutto un altro gioco e che non è stato neanche quello che voleva essere, è un altro discorso. Che poi Alan Wake, tutto sommato, poi alla fine comunque, cioè, nel senso, non è stato fatto impazzire, è stato la metà di quello che voleva essere, ma insomma, no, un bel titolo, per carità, però comunque siamo lontani da, dalla tipologia proprio di videoludica, se vogliamo, che c'ha in mente Cage quando scrive, è proprio un'altra cosa, insomma. Però Peppe, okay, tu invece che pensi del mio pensiero? Esatto, no, io più che altro volevo rispondere alla, visto che non ho ancora dato, diciamo, il mio, così, il mio ipotetico, il gioco che vorrei giocare su PS4 di Cage, anziché insomma continuare sempre la strada del poliziesco, a questo punto mi faccio così un trip mentale, visto che comunque una vena anche futuristica Cage appunto l'ha dimostrata sia in Fahrenheit che anche in Heavy Rain col discorso di Ari. A questo punto mi piacerebbe da Cage un prossimo videogioco a tema magari fantascientifico, tipo viaggi nel tempo o dimensioni alternative. Scusa, no, secondo me se lo fa se si annoia. No, ma secondo me, cioè, lui fa queste cose che so tutta potrebbe, se rompe il cazzo, sì. Cioè devi fare, no, ma ovviamente che ci sono, che ci posso dire anche viaggi nel tempo, nel, però a livello, diciamo, di come, con ambientazione contemporanea, no, dove magari il protagonista tipo alla Ritorno al Futuro, per darti un'idea, anche perché là ci sarebbe bene, che so, il discorso che tu ti giochi delle scene pure di vita vissuta, magari te le giochi in intervalla il controllo al personaggio del futuro e magari il suo io del passato, no? Un po' come era tipo in l'alternanza dei personaggi in Fahrenheit, dove comunque c'era quel gioco di acchiapparello dove con Lucas dovevi, insomma, nascondere gli indizi e poi con Carla e con Tyler dovevi trovarli, no? Una cosa del genere mi piacerebbe vedere, soprattutto come dal punto di vista del gameplay anch'io, insomma, anelo al ritorno del, diciamo, del game over, ovviamente non troppo pesante, ma che comunque in qualche maniera influisca sulla sulla narrazione, no, che dia un po' più di mordente proprio al gioco, sì, esatto, alla giocabilità, perché sennò sì, questa, diciamo, è la mia visione pure, così il gioco, okay, e su quello che ho detto io di Sony sono curioso, secondo me io sono effettivamente, la penso pure io, che comunque, come dice Simone, sia più facile se gli presenti una cosa che assomiglia a un blockbuster del cinema, piuttosto che, diciamo, il gioco raffinato con idee che magari però la gente, il pubblico casual non, sì, ma, però in non questo capisce. Discorso io non capisco che soggetti, quindi non ti vende, Giuseppe, gli presenta chi a chi? Cage, ma Sony, esatto, oramai l'ha, esatto, prodotto il primo gioco e il secondo gioco, basta, cioè che non gli deve più dimostrare, sì, niente. Ma Sony comunque, no, ma fino a un certo punto, perché ricordiamo anche che sempre con Beyond, dopo, diciamo, che è uscito il gioco, nei primi giorni è visto anche le vendite, le recensioni, quello che vuoi, della critica, se ti ricordi, Yoshida era tornato un attimo da Quantic Dream dicendo, signori, ma io che cazzo fate, esatto, io mi aspettavo qualcosa simile a Heavy Rain, però non è proprio uscito uguale, no? Beh, vabbè. Come successo dico, non come temi, come cose, no? Quindi, insomma, loro si aspettavano che bam, il colpo la colpa con, Rain, pure, no, di Beyond, con magari, cioè, potrebbe essere quello, sì, però questo discorso è un po' zigogolato, nel senso che sì. Boh, cioè, nel senso, vabbè, che poi dopo loro si aspettano dei risultati, io lo metto in discussione. Però esatto, è pure che questi investono milioni di dollari su progetti, sì, che durano 3-4 anni quando lo fanno solo con Quantic Dream, raga. Cioè, diciamocelo chiaro. Cioè, Vabbè, anche con Naughty Dog. Naughty Dog, esatto. ogni due anni ti sforna un gioco. Con Santa Monica. Cioè, ragazzi, stiamo a scherzare. Quelli lavorano contemporaneamente su due progetti. E ogni due anni ti sfornano un gioco. Questo ti sforna un gioco solo ogni quattro anni. Ma questo anni. Saranno 20 persone, 30, non so quanta, esatto, gente. Esatto, ma c'ha due team. Esatto. I due team più i cinesi che gli fanno roba su roba. Quindi, cioè, i cinesi. Sì. Ma guardate, guarda i cosi. Ci credo. Ma è venuto a ridere. Perché fanno una roba. Il lavoro pesante, lo fanno tutti outsourcing in Cina e lì sono altri soldi rispetto a quelli che hanno dato a Cage. E comunque pure Naughty Dog fa i blockbuster, a parte Last of Us, che infatti ha fatto 4 milioni. Io non so Uncharted, ma penso qualcosa di più. Uncharted è un film. È come vedere una cosa tipo Indiana Jones, sì, che poi tra l'altro è il motivo per cui io poi mi sono avvicinato a PlayStation, sono stati Uncharted e Heavy Rain, PlayStation 3, perché io Sony l'avevo mandato a fare. Sì, ma Naughty Dog comunque è uno sviluppatore di terze parti, non è, cioè, nel senso, non so se, ma come, no, è second party, è second party sempre perché sviluppa solo per Sony. Esatto. Non è che non fa niente. E sono altri soldi, secondo me, sono ben altri soldi. Non lo so, bisognerebbe vederlo. Io non, purtroppo non posso esprimere perché non so così documentato. Sarebbe bello ritornarci sopra e andare a vedere un attimo le cifre di quello di cui stavo a parlare. Che cifre di cosa? No, del fatto di quanto costa a livello produttivo, quanto può essere costato Beyond rispetto a The Last of Us o Uncharted, per dite. Vediamo, cioè, nel senso che posso anche dire che c'hai ragione, ma non lo so. Quindi dicono 20, sì. Qui si dice 20 milioni di euro. Ma che cosa? Cercando su Google Beyond. Ma 20 milioni di euro, raga, ma che cazzo so? Ma non so niente. Cioè. Tosto di. Ma vabbè, io direi che nel frattempo andiamo all'ultimo punto. Punto. Ovviamente abbiamo visto che sulle orme di Cage, chi prima, chi dopo, comunque ci sono stati altri player, altri studi di sviluppo, altre menti dietro che comunque hanno continuato a portare avanti, insomma, la strada intrapresa da Quantic Dream. Per esempio, c'è chi ha provato certe cose un po' prima di Cage, ricordo Shenmue 1 e 2 di Yuko Suzuki, oppure subito dopo, insomma, a Cage tutta la serie di riuscita di avventure di Telltale, quindi soprattutto con The Walking Dead, The Wolf Among Us, ma ci sono stati anche, diciamo, altri tentativi che in qualche maniera parallelamente comunque portano avanti uno sviluppo narrativo. Per darti un'idea, nel mercato indie The Stanley Parable, o anche comunque la storia che per esempio ha realizzato Ken Levine con Bioshock Infinite. Insomma, parliamo di ognuno, insomma, chi vuole citare qualche esempio e del perché, insomma, crede che in qualche maniera possa contribuire allo sviluppo di questo filone di giochi. Qualcuno che vuole cominciare? Scusa, vai Simone. Vai Simo. Io, allora, mi fa piacere che in qualche maniera si stia facendo, si stia affermando questo modo di interpretare poi il videogioco, dove la narrazione prende un posto importante, l'interazione col giocatore, la quarta parete, si stanno un po' evolvendo sicuramente le cose, però non vedo molta somiglianza con questo tipo di giochi, o meglio, alcuni sicuramente sì, però tipo Gone Home già di meno. Stanley Parable non l'ho giocato, ma da quello che ho capito è proprio un'altra, una roba, cioè comunque differente. E però li si può mettere tutti in un calderone proprio per evidenziare il fatto che i tentativi ci stanno, le prove le stanno facendo, e che adesso sarebbe bello che tutti questi tutte queste piccole gemme, come puoi dire, insomma, queste piccole e grandi produzioni, insomma. Sì, insomma, germoglino, appunto, mi aspetto che diano il là poi a una contaminazione tra di loro, e quindi che si crei un vero e proprio filone, come quello poi che è stato, per esempio, adesso delle avventure grafiche, dove comunque esiste, c'è. E che si ritagli il suo spazio, sicuramente questo è positivo e a me da un certo punto di vista esalta, perché io dopo i laser game non ho avuto più un gioco che avesse quel tipo di approccio e che io invece adoro. Chiamatemi che non sono un videogiocatore, come vi pare, però ed fu anche la cosa, secondo me, una delle cose che mi colpì, per esempio, in Resident Evil 4, perché si approcciava le cazzine in maniera diversa. Se ti ricordi, c'è una scena che mi rimane in mente, che è proprio nel lago. Tu stai nella barchetta di legno e a un certo punto arriva, c'è il mostro che tu pensi sia andato via, cosa del genere, tira la corda e tu rimani, se c'è presente, però devi fare un quick time event per riuscire a rimanere vivo. Io lì avevo finito un pezzo, mi ero appoggiato e ho detto: ah, l'ho ammazzato. E invece mi ha fatto sto gioco. E Resident Evil 4 ce n'aveva molti di questi momenti così. Anche c'è un combattimento con coltello che mi viene in mente che sia con Wesker, ma non è Wesker, è un altro, e poi tira fuori le ali, insomma. Il Mercy col mercenario, sì. oppure quello di quando ti lanciano il pietrone e devi sfuggire, no, stile Indiana Jones, sì, esatto, esatto. Quelle robe, come poi un po' ce l'ha avuto Uncharted, quella roba, sì. La roba mi piace molto e che in qualche maniera ovviamente è molto lontano da questo, però era già un embrione di questo, e quella roba mi piace molto. Aggiunto poi a una regia di un certo tipo, a una risposta di un certo tipo, a un una scrittura proprio di dialoghi di un certo tipo, bene così, continuate. L'altro Simone? No, stavo a guardare la lista. Allora, sì. Shenmue 1 e 2, che penso, vabbè, cioè, ovviamente puoi anche introdurre titoli che nella scaletta, purché abbiano, diciamo, una forte componente narrativa, comunque siano interessanti da quel punto di vista. Ma guarda, io cioè, considero un elenco, insomma, abbastanza semplificativo, ma vabbè, Shenmue viene prima, quindi ci dimostra la volontà di, allora, partiamo dal presupposto che il mio sogno, al di là dei videogiochi, no? Nel senso del fatto che ogni tanto si divertimo, giochiamo, spariamo e famo, sì. La mia grande ambizione è sempre stata, anzi il mio grande sogno è sempre stato un'evoluzione dei giochi della LucasArts, no? Nel senso, comunque, l'avventura grafica con un appeal dinamico e cinematografico, quindi questo è quello che io ho sempre sognato, e per in molti ambiti, diciamo, piano piano con l'avvento del 3D e roba del genere, insomma, sono state varie sperimentazioni, lo stesso Gabriel Knight 3 e tanti altri titoli, insomma, che hanno provato, diciamo, ad esplorare l'aspetto cinematografico e narrativo in maniera un po' più dinamica e un po' più evoluta. Detto questo, Shenmue 1 e 2 secondo me sono probabilmente i titoli che avevano dimostrato che probabilmente una direzione potenziale era quella, perché ci avevano avuto questa intuizione, perché secondo me funzionava, e perché comunque un gioco aveva una trama comunque abbastanza articolata, e volere essere allo stesso tempo cinematografico purtroppo deve avere anche dei limiti, che sono dei limiti strutturali e sono la mancanza di libertà, questo prima di tutto. Questo non significa che giochi con grandi e ampie libertà non possono essere cinematografici, ma sicuramente voglio dire, se vuoi avere un forte, potente controllo sulla trama, quella è la direzione, lo dimostrano appunto i giochi di David Cage, come i giochi della Telltale, che hanno anche loro percepito questa intuizione, hanno espanso, provato ad espandere praticamente il concetto che David Cage e Shenmue ancora prima ha provato, insomma, ad esportare, che è quello del quick time event, fondamentalmente, che per quanto odiato e bestemmiato sia stato, purtroppo è un elemento che non può spesso e volentieri prescindere da questo tipo di videogiochi. Ne è la dimostrazione, anche se è un po' un fallimento, anche se a me è dispiaciuto molto, per esempio Jurassic Park, sempre di Telltale, che quello sì è veramente un laser game totalmente in quick time event, ma aveva delle intuizioni, per esempio nelle parti più tra virgolette giocate, che l'intuizione era che l'importante era la scena più che i personaggi, tant'è che tu non controllavi un personaggio all'interno delle parti tra virgolette giocate, quindi dove potevi la parte più d'avventura, ma controllavi la scena, tu eri l'occhio della scena, eri la telecamera della scena, e quindi tutto era in funzione del fatto che dovevi risolvere la scena. Poi se era il personaggio A o B che potevi controllare contemporaneamente, addirittura cambiava poco. Però poi ovviamente ci ha avuto insomma tante biastime. Stanley Parable per esempio o Gone Home per me già non rientrano in questa categoria, per dirti, perché comunque sì sono narrativi, però sono tipi di esperienze completamente diverse e non rientrano secondo me proprio nel concetto della visione del gioco narrativo e cinematografico, chiaramente più esperienze quelle che... ma anche Portal poi secondo me, a differenza di Mass Effect che è un gioco del ruolo, un gioco d'azione, però ha una componente fortemente cinematografica, ma anche qui insomma poi ci sarebbe tanto da dire, cioè nel senso purtroppo rientra proprio in una categoria ancora diversa. Secondo me è quello che mi auguro io, ecco, io mi ricordo quando uscì Heavy Rain, mi ricordo la recensione che fece Pierpaolo Greco, e poi mi ricordo che lo intervistai anche per Di Tutto un Podcast proprio in merito, e lui disse, dice, sai, un gioco come Heavy Rain una volta ogni 4-5 anni te lo puoi pure giocare, se ogni anno me ne esce uno è una palla. È un concetto che io non mi ha un po' turbato, perché dico no, cioè invece secondo me sarebbe bello che insieme a tutti gli altri tipologie di giochi, a un GTA 5 sarebbe bello che invece continuasse anche quel filone lì, aprendo proprio una tipologia, cioè nel senso una specifica tipologia che è per chi è appassionato di questo tipo di giochi, cioè nel senso. Tant'è che infatti seppur diciamo tra virgolette a basso budget, Telltale esatto. ne ha fatto un business, un mercato, no? Mi dispiace che sono fatto... quasi monopolisti, però. Sì, ma esatto. Secondo me prima o poi. Secondo Scappano. Me prima o poi. Perché comunque il problema è che bisogna. Allora, per fare un gioco del genere bisogna avere i coglioni. Perché se tu fai un gioco del genere che è comunque estremamente limitato e criticabile come videogioco e non c'hai la giusta narrativa, chiaramente fai un botto che non finisce mai, ti tirano la merda fino a che non campi, e che loro sono stati coraggiosi perché comunque hanno un team di scrittori che gli permette di poterlo fare, ma se non c'hai quello lascia perdere. Io penso che forse è questo il motivo per cui non, anche altri magari non si imbarcano in progetti similari. L'unica cosa che mi dispiace è che Telltale ovviamente ha la sua visione del mercato rionale, cioè nel senso comunque loro concepiscono quello che fanno per il loro mercato, che è quello praticamente quello degli Stati Uniti, e che loro sanno che vendono anche al di fuori, ma gliene frega fondamentalmente un cazzo, cioè nel senso loro comunque fanno un po' come facevano le syndication, i network americani degli anni 70, cioè loro facevano il telefilm per lo stato dell'Iowa e lì era insomma, poi dopo se faceva successo e andava per tutti gli Stati Uniti, tanto dei successo, tanto dei cappello. Il problema poi chiaramente questo del Telltale lo rivediamo anche nel problema delle traduzioni, sì. Che è un problema serio, perché per quanto uno possa conoscere l'inglese, loro per essere ancora più immersivi, così come fa Rockstar, utilizza proprio un vero e proprio gergo, insomma, quindi diventa un po' complicato spesso e volentieri. Boh, vabbè, io spero invece nella sopravvivenza del genere e in un ulteriore futuro sviluppo, anche rimanendo insomma su quell'impronta lì. Marco, Carlo, chi è che dei due vuole andare avanti? Vuole esprimere la sua? Beh, io Marco, velocemente vai, magari. Velocemente, allora calcola che tu intendi dire con questo punto, diciamo, sì, che sì, cosa ci piace, se ci piace, se bisogna continuare. Comunque. Sì, esatto. Sicuramente questo. Insomma, come lo vedi la situazione, il futuro, insomma. I giochi come diventano sempre più comunque narrativi. Poi, ovviamente, c'è chi percorre la strada dei quick time, chi delle avventure grafiche, chi di comunque delle cutscene più particolareggiate, però fondamentalmente il mercato si sta spostando verso questo tipo di giochi, cioè stanno cercando di far diventare i prodotti più simili a telefilm o film, cose che sono più diciamo conosciute dalla gente, per cui tendono a far avvicinare persone che normalmente col videogioco c'entrano poco e niente. È un po' anche la forma di commercializzazione. Sicuramente a me piacciono, sicuramente tra un The Witcher o The Witcher 2 e un Pac-Man, per dire, anche se è 3D, però fondamentalmente insomma meglio, meglio trombare che trombare, che tromba, cioè, no? Comunque un, esatto, un qualcosa che oltre che farti dare due spadate ti, comunque ti racconta una storia, comunque ti dà ancora più diciamo la immedesimazione, insomma, cioè, è sicuramente una cosa preferibile. Tra ovviamente Stanley Parable, diceva appunto Simone, e un gioco da Telltale, ovviamente c'è un po' di differenza, perché di Stanley Parable è vero che è tutto narrato, però più l'esperienza, che in qualche maniera influenza le tue scelte, ma fino a un certo punto, sì, no? Sì, sì, perché magari hai anche gusto di fare quello che invece non, che il contrario di quello che viene detto. Ad esempio, prendi la porta di destra e fai quello di sinistra, e quindi senti quello che ti dice, va bene, però in realtà ha preso quest'altra. Però sono più esperienza che narrativa, cioè la narrativa è subordinata all'esperienza, cioè la vedo un po' più così, però insomma sono comunque dei giochi in cui la narrativa ha un angoletto di importanza. Quindi secondo me si saranno sempre più così, saranno l'unica cosa è che se ovviamente poi il mercato crolla del videogioco, magari diventeranno un po' più sciapotte le trame, ma chi può dirlo, insomma, speriamo che invece migliorino. Carlo? Ma io, da diciamo, avendo come voi un passato di videogiocatore, insomma, che era abituato a un certo tipo di narrativa nei videogiochi, cioè, quindi quasi inesistente, insomma, gli unici giochi narrativi in qualche modo che per quanto mi riguarda, prima di giocare a Fahrenheit, erano i giochi di ruolo. Quelli erano i giochi in cui comunque la parte narrativa la faceva da padrone, sicuramente. L'idea di giocare a un gioco che non è un gioco di ruolo e non ha, diciamo, i dettami di un gioco di ruolo, è una cosa che si discosta assolutamente, come è stato Fahrenheit. Immaginate, insomma, come diceva giustamente prima Simone, mi ha fatto esplodere la testa anche a me, insomma, è normale. E, avendo poi successivamente visto addirittura un seguito di questo genere, è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Secondo me, la trovo un'evoluzione del media videoludico. Questa è una cosa che mi linko a una cosa che io stesso avevo detto su uno dei video che abbiamo registrato assieme. Sì. Sarà comunque pure chiamiamola maturità, chiamiamola pure vecchiaia, chiamiamola come vi pare a voi. Io mi sono un po' stancato del contentino dei videogiochi, del tiè, questa è la pistola, questo è il fucile, questo è il nemico, sparagli in testa e così muore, e sblocchi l'obiettivo. Sparagli in testa, supera il livello e poi assisti impassibile a una cazzina. Esatto. No? Quindi l'idea comunque che ci siano dei videogiochi così attenti a non solo comunque la parte narrativa, che nel bene o nel male comunque viene privilegiata. Ovviamente adesso abbiamo fatto delle disamine anche un po' cattive, fra virgolette, insomma, cattive, perché comunque, voglio dire, questo è senz'altro è un sintomo del fatto che noi siamo molto esigenti dal punto di vista narrativo, sì. Non è che ci accontentiamo così, non è che ci abbiamo 14 anni, insomma, abbiamo anche magari chi più chi meno una cultura cinematografica, televisiva, e chi più ne ha più ne metta, insomma. Tale da esigere comunque una certa qualità, una certa attenzione nell'uso della penna, appunto, quando si scrive un videogioco. E io spero che comunque questo tipo di genere continui ed evolva ulteriormente, perché comunque, cioè, io ripongo molta, molta fiducia in David Cage, specie su PS4, insomma, vediamo che ha in mente di fare quello lui. Però al di là di questo, insomma, che sia Cage o che siano appunto Telltales, che siano i Naughty Dog, o che siano anche nuovi esordienti, o anche, appunto, nuovi player che ancora non conosciamo, Benvenga, sì, benvenga è un genere che secondo me in qualche modo è ancora agli albori, è un genere da, che ha bisogno di essere cesellato moltissimo, perché ovviamente, non lo so, essendo molto legato comunque al cinema, alla televisione, anche lì quando guardiamo, magari ci capita di guardare una serie o un film che magari ha una sceneggiatura un po' così, un po' basilare, comunque ci lamentiamo, è inevitabile. Diciamo, sì, è bello, carino, però niente di che. Con un videogioco si corre ancora di più il rischio, perché comunque su un videogioco tu ci rimani, ci interagisci e tutto il resto. E per cui secondo me, ecco, c'è ancora parecchia strada da fare. I professionisti che la sanno fare questa cosa ci stanno sicuramente. Speriamo, insomma, che nel futuro, il futuro ci riservi comunque delle produzioni belle, non solo tecnicamente, perché ormai abbiamo degli hardware tali che possono comunque senza fatica gestire dal punto di lato tecnico, per cui adesso quello che manca è proprio la bontà delle sceneggiature, e speriamo, insomma, questo avvenga. Ok, io fondamentalmente sono d'accordo pure da questo punto di vista, infatti spero che continuino a uscire qualitativamente giochi narrativi validi, tanto da Cage, che magari speriamo appunto che col prossimo titolo cerchi di darsi un freno, sia che Telltale spenda un pochettino di più dal punto di vista tecnico, perché comunque anche con gli ultimi episodi sia della seconda stagione di Walking Dead. Scusa Peppe, se andate sul sito della Quantic Dream è uscito il titolo del prossimo del prossimo titolo di David Cage, eh? Sì, qual è, qual sarebbe? La chiave, la chiave. Non è la chiave, no, no, però è allusivo. Sì, sì, sì. Insomma, speriamo di trovare anche altri studi di sviluppo che, insomma, si continuano a percorrere questa strada. Chiudo questo prima di passare, insomma, alla rubrica successiva. Volevo fare gli auguri in diretta al gran maestro di PN, che è appena passata, insomma, da quasi è appena passata a miglior vita la mezzanotte, ed è diventato più vecchio di un anno. Quindi auguri a Simone Pizzi. Grazie a te. Mamma mia, che sozzeria. Vi ringrazio veramente tanto. E come vedete, la notte del mio compleanno sono qui con voi. E questo... Buonanotte. E pensa quando uscirà il podcast, che la gente che continuerà anche dopo il tuo compleanno a farti gli auguri. Questo protrae. Mi piace questa cosa. Piacerebbe. Diciamo che la discussione continuasse ancora. Sarebbe bello parlare una volta della fotografia di Beyond, però insomma, perché va bene, avremo anche esatto, sì, sì, esatto. Voi fate, non è che io mica vi impedisco niente. No, ma va bene così, va bene così. Diciamo che questa è stata, secondo me, una disamina abbastanza interessante. Non abbiamo voluto neanche dire se David Cage è un cialtrone o se è un genio. Abbiamo detto che comunque ha aperto. Perché possiamo fare l'ultimo giro così sì, esatto. secco dai Simone, cialtrone o genio? Cognome genio, no, genio cialtrone, okay. Carlo? Nessuno dei due, pioniere lo definirei, pioniere. Mi piace di più. Marco? Cialtrone. Oh, dai, non puoi... No, non è cialtrone, assolutamente. Giuseppe? Ma ti deve dei soldi, simile a quello di Carlo, però userei il termine più che altro visionario, in parte innovatore, in parte con però diciamo con una vena di cialtroneria paranormale. Io devo dire che per me è un po' un cialtrone, però non posso non ammirare comunque il suo coraggio, comunque è un apripista, secondo me ha aperto sì. Comunque, anzi forse neanche, perché forse Shimmyu, appunto, diciamo, forse ha aperto lì magari un po' un cancello, e quindi lui secondo me si è buttato. Sì, un visionario, c'ha ragione Giuseppe, sì. Ok, passiamo alla prossima. Andiamo alla posta. Ah, con gioia, Giuseppe, con gioia, dai. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va. È uguale. E allora eccoci qui a dietrologia postale, la posta, questa sì che c'è lo stacchetto fatto come si deve, eh? Tra l'altro lo stacchetto, lo diciamo, che l'ha fatto Carlo, chiaramente, perché insomma, da buon professionista, ha fatto addirittura veramente bravo, ma l'ha fatto sovrappensiero con un occhio chiuso, con l'occhio chiuso, sì, mentre che dormiva poi. Esatto. L'ha fatto anche in voce, ma la cosa bella è che lui, che, cioè, nel senso, io ho detto ah bravo, ma chi è l'attore, che, perché sembrava, siccome che ha lavorato, ha picciato un po' la voce, penso, sì, sembra uno vecchio, dice ammazza bravo st'attore per oggi, hai dovuto disturbare pure una persona, cioè no sono io, sono l'anziana, hai dovuto disturbare. Ma che vecchio per fare questa cosa? Che strano, scusi lei, signor vecchio. Cara dietrologia videoludica. Bellissimo, bellissimo, veramente. Ok, sì, e sì. Finalmente questa trasmissione, non che prima non fosse, ma insomma, incomincia ad servirsi di asset, insomma, un po' più. Oggi ne manca uno, perché purtroppo, come avete notato, abbiamo saltato una rubrica. Ma andiamo all'unico messaggio, insomma, che vogliamo leggere. Lo legge Marco, e poi giustamente ci salutiamo, perché insomma siamo andati, anzi siamo stati pure bravi, devo dire, tutto sommato, sì, perché sì. Potevamo pure vivere a casa vostra e menarvi, invece no, siamo stati qua tranquilli. Ma non è detto, okay. Cioè, ancora mica è finita, mica è uscita ancora la puntata, quindi. No, poi c'è il fuso, quindi magari arriva domani mattina, eh sì. Vabbè, e ricordate tutti che in questo momento David sta alzando la testolina e dice: ma qua ci metto la strega. A devi tu, a canna e streghe. Comunque, dal sito ci arriva un commento, una puntata fresca del 2012. Cioè, perché la cosa fantastica del podcast è che è sempre lì, e c'è gente, si immerge e rimane incastrata nello spazio e nel tempo, come Ghostin con archeologia videoludica, che era sparita ma adesso è tornato. Dovremmo sapere dove è arrivato. Comunque in ogni caso, dalla puntata natalizia del 2012, quindi proprio in tema, Alan Slade ci dice: Alan Slade lo conosciamo? Chi è? Non lo so. Comunque arrivo con un anno abbondante, è uno che ha fatto la fine di Ghostin, comunque, perché è rimasto incastrato pure lui. Arrivo con un anno abbondante di distanza, ma chi se ne, preferisco centellinare le varie puntate che ascoltarmele tutte una dopo l'altra e rimanere senza niente da ascoltare. Puntata divertentissima ed estremamente godibile. Tra le altre cose, anche io nel 94 acquistai un kit della Sound Blast, con un bundle che ancora oggi ricordo con affetto. Non sappiamo minimamente di che cazzo stai parlando, però sì, probabilmente l'abbiamo citato. Il multimedia kit della Sound Blaster, l'ho raccontato. Ok. Non era quella. Io mi ricordo, ce l'avevo pure il coso, tra i vari software inclusi, c'aveva quello col pappagallo che ti ripeteva le frasi. bravo. Pensavo il pappagallo, sì, quello dell'ospedaliero, invece no. Sì. Dentro c'erano scheda audio, una padella, scheda audio. E casse, un joystick a due pulsanti e una caterva di giochi, tra cui Mega Race con il grandissimo Lance Boyle, Chessmaster 4000 Turbo, Cyclones e Dragon Lore, altro che Humble Bundle. Saluti dal futuro, alla prossima vecchia puntata. Beh, forse dal passato, no, siamo noi che ti salutiamo dal Ciao. Futuro che arriveranno l'anno prossimo, ma va bene comunque. Con affetto, perché mi ha ricordato Mega Race, che veramente io adoravo al tempo. È stato, penso, il mio primo, no, senza penso, è stato il mio primo gioco che ho avuto su PC nella mia vita, proprio meraviglioso. Quindi grazie, come si chiama lui? Alan Slade, ti ricorderemo per questo tuo rimando. Che sembra un necrologio, però insomma ti ricorderemo di te, necrologio, chiaramente. Va bene, allora No, io volevo solamente dire, precisare che a Chess Master, la serie Chess Master, ho sempre preferito Battle Chess. Battle Chess, grande, grande Giuseppe. Quello con gli scacchi che combattevano. Fantastico, fantastico. Cioè, è fantastico. Sì. Non c'è manco a descrivere. Fantastico, c'hai ragione. Va bene, allora io do prima i riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it. Cercateci su Facebook e Google Plus e cercateci anche su YouTube, che stiamo sfornando video a tutto spiano. Chiaramente tutto in favore del canale di allgamesitalia.net, che è la trasmissione con la quale coproduciamo questo, chi ti manca, Pizzi, chi ti manca? Questo podcast e non solo, chiaramente insieme anche a www.italianpodcastnetwork.it, che è il nostro editore supremo. C'è anche, allora, innanzitutto c'è la campagna videoludica, aspetta, no, dietrologia video, che è il nostro Twitter, esatto. E poi ovviamente archeologia dietrologia videoludica @gmail.com, che è il nostro che è la nostra posta elettronica dove potete scriverci, e qualcuno ogni tanto lo fa anche. C'è sì. La campagna ci hanno scritto ultimamente alcuni che ci dicevano, la nostra dottoressa che ci dava la crema per allargare il pene, però a parte questo scriveteci. Sì. Non funziona comunque, e in ogni caso abbiamo la campagna Carcer Q, questo ricordiamolo perché insomma ci tengo, stiamo cercando di raccogliermi i soldi per comprare 1.000 euro, Marco, 1.000 euro, mi servono solo appena 1.000 euro per fare nuovi ed entusiasmanti video, i video che ne so, dei Assassin's Creed non so, di qualche altro gioco che adesso non mi viene in mente, che non posso giocarci perché purtroppo il computer non gliela fa. Ricordatevi, se volete fare la donazione se no anche diffondete informazioni con l'hashtag CarcerQ, con l'accento sulla U, mi raccomando. Importante. Poi un'altra cosa, abbiamo un canale anche per tutti gli steamaroli lì fuori, abbiamo un canale, un gruppo su Steam che è appunto All Games Italia, dove ci sono io, c'è Sato. Su Steam. Si è capito quello che hai detto. Su Steam c'è un gruppo. Dove si iscrivete tutti i giocatori. Tutti i giocatori di All Games Italia, quindi anche lì vengono postate video, perché quelli vi dovete vedere prima o poi, per cui i nostri ovviamente, e quindi se volete farvi una partita di tanto in tanto con qualcuno di noi, organizzare magari qualche sfida, qualche multiplayer, io sono sempre aperto per XCOM Enemy Unknown al multiplayer, quindi, mi raccomando, sentito. Invece Marco oramai è perso nei multiplayer gratuiti. Sì, sono dentro Neverwinter, non ne riesco a uscire. Bene, allora salutiamo i nostri carissimi amici, quindi partiamo da Carlo. Carlo, dove la gente può raggiungerti oltre a questa magnifica trasmissione? Io sono su Facebook, e poi lì, come ho un bloggetto personale, in realtà ne ho due, però diciamo che sono due blog diversi. Uno è carlomix.blogspot.it, dove trovate un po' di miei lavori di sound design che ho fatto, perché di mestiere faccio quello io. E invece carlomix.tumblr.com, ci sono un po' di foto che ho scattato in giro, così mi diletto, non sono un professionista ovviamente, però mi piace molto, per cui mi trovate lì. Non uso Twitter purtroppo, ho un account ma è come se non ce l'avessi, per cui questi sono i miei unici contatti. Perfetto. Simone, allora, a me, se posso fare anche un po' di spam, tanto non fai altro, non è che non ti invidiamo a fare lo spam, Miguel. Vabbè, là non lo faccio. Mi trovate su Twitter, su @ Ben Malaussene su Twitter. Ma come si scrive? Scusa? Ripeti? Ben Malaussene, come l'ho detto? Okay. Come l'ho... Onde cerco, perché io mi sa che non ti ma perché questi nomi strani? Ti ho, perché è il protagonista di un romanzo di Pennac che mi piaceva e non lo so, in quel momento eri triste, ero preso e solitario, esatto, mi sento triste un po' e solitario, quindi no, però comunque Simone Cognome lo trovate, però è la chiocciolina, cioè quello proprio per capire se è proprio tu, metto quello. E su The Shelter Network cercate, ci sono gli articoli su Dietrologia Videoludica che ci stiamo, quindi non c'è bisogno di spammarlo. E poi vabbè, lo dico, su freeplaying.it voi andate e vedete quello che trovate, così vi lascio un po' di sorpresa. Io non te trovo comunque, ma ci abbiamo, ci siamo già. Vabbè, mo te lo dico chi so. Te lo dico chi so. Vuoi sapere chi è? Marco? Stocca. Allora, tu c'hai il tuo famoso blog, Blogspot, Snapshot su camshot.largerpenis. Che è famoso, no, è un blog di fotografia. Il famoso blog di fotografia. E no, potete trovarmi forse su Facebook con il distruggitore, ma sono ben nascosto, e sono su Google Plus. Oppure basta, cioè, quanto, perché mi dovresti trovare? Infatti, non mi vede il cazzo di... No, anche perché è lui che troverà, casomai. Se mi venga a cercare io, semmai. Giuseppe? Allora, mi trovate su Twitter sempre con il nick Peppe Saso, Giuseppe Saso ovviamente sia su Facebook che su Google Plus. Poi c'è il mio blog su Tumblr, che è vitaingioco.tumblr.com. Mi trovate ovviamente su alcune produzioni di PN. E come ultima cosa vi ricordo che, insomma, è nato da pochi mesi pure il mio podcast, sempre del network di PN, dedicato ai videogiochi di ruolo, che è L'Occhio del Beholder. E quindi, insomma, se non l'avete ancora ascoltato, cominciate. Vi piacciono i giochi di ruolo? Cominciate. È stato super spammato nell'ultima puntata di Free Play. Ascolterai, sentirai. Ok, eh sì. E che tra l'altro è uscito qualche giorno fa proprio il nuovo episodio, la terza puntata, un temone tra l'altro, Occidente verso Oriente. Quando? Verso perché niente. Non mi è arrivato sui film? Perché ma noi siamo nel futuro. Vergogna, cioè, sei veramente l'ultimo tra gli ultimi. Che vergogna. Sei proprio un bel malaussene, guarda. No, eccolo qua, l'ultimo spot di debutto che c'ho io qua. Lo apro in questo momento in diretta. Sì, vabbè, dopo ti spiego. Dopo te lo spieghiamo. Allora, eccolo qua. Salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori, ci ascoltiamo fra poco tempo, insomma, con nuove puntate. Parleremo di Nintendo e parleremo di doppiaggio, quindi insomma preparatevi, ci saranno due belle puntate, insomma, già in fermento e in preparazione. Chi ha trovato difficoltà su alcuni feed di Italian Podcast Network, sappiate che IPN è in fase di trasloco verso un nuovo server, e per questo ringraziamo ovviamente Symetranet, che ci ha ovviamente offerto, insomma, questa grande opportunità, politico, che diventa, insomma, ufficialmente ufficialmente il nostro sponsor. E detto questo, insomma, abbiate un po' di pazienza, che fra qualche giorno ritorna tutto a posto. Anche archeologia videoludica e archeologia informatica sono uscite con i nuovi episodi, quindi insomma stiamo ritornando un po' freschi che mai. Insomma, il Natale ci aveva un po' un attimo rallentato, ma oltre a questo adesso vanno anche in onda i Genonto Gamers, una puntata speciale. Sì, cioè, ovviamente sempre puntata a tema, sempre puntata a tema, e quindi buonanotte, buonanotte a tutti, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao amici, welcome to Geronto Gamer. Sì, c'è ragione, Simo. Sto gioco è proprio una noia mortale. Già, scusa, non devo usare qua la parola, scusa, ma senti, ma sicuro che non riesci a maneggiare un pad, qualche device, che mi sono rotto di giocare da solo? E no, cavolo, ma hai detto il pad? Basta, se mi ho capito, non ci riesci, è l'assassino, eh? Sì, è vero, ma ti ricordi le partite giocate a due? Uno che manovrava e il pupazzetto di turno e l'altro che guardava. E poi si scambiavamo per vedere cose, diverse tattiche del gioco. E ti ricordi? E si divertivamo, dai. E mo, non si può fare più niente.